come sei prese Nuovo Testamento e il Paradiso nel Corano? I primi sono davvero i primi? Saranno i ravvicinati nei giardini delle delizie. Molti tra gli antichi, pochi tra i recenti, su divani rivestiti d'oro, sdraiati gli uni di fronte agli altri. Vagheranno tra loro fanciulli di eterna giovinezza, recanti coppe, brocche e calici di bevanda sorgiva, che non darà mal di testa né ebbrezza, e i frutti che sceglieranno, e lembe le sfiti. Carni d'uccello che desidereranno, e ci saranno colà le fanciulle dai grandi occhi neri, simili a perle nascoste, compenso per quel che avranno fatto. Colà non sentiranno né valeggiamento né oscenità, ma solo pace, pace, e i compagni della destra. Chi sono i compagni della destra? Saranno tra i loti senza spine, e banani dai caschi ben colmi, nell'ombra costante, e acqua corrente, e frutti abbondanti, inesauribili e non proibiti, su letti elevati, in arabo, letti reclinabili, le abbiamo create per vergini, amabili e coetanee, per i compagni della destra. Sura 56, 10-38. Le porte del paradiso islamico saranno potenzialmente aperte per coloro che hanno recitato la Shahada, la dichiarazione di fede islamica. Bisogna innanzitutto chiarire che il cielo e l'inferno sono termini di origine biblica, ma nell'Islam e nel Corano non trovano la stessa definizione a cui siamo abituati come cristiani. Per i musulmani il paradiso è un luogo in cui essi ricaveranno piaceri di tipo alimentare e sessuale. Secondo varie sure del Corano, in paradiso vi saranno immensi giardini dove crescerà ogni tipo di albero, pianta e fiore. All'ombra di questi alberi scorreranno fiumi di latte, miele, vino pregiato, acqua purissima e bevande alcoliche. Per chi fosse interessato, ecco alcuni riferimenti ai fiumi di vino. Sura 47:15, 76:5-21, 83:25-29. Ovviamente sulla terra il consumo vino rimane proibito. 5:93-2:219. I salvati siederanno su bellissimi troni posti sulle rive di questi fiumi. Sarà a disposizione di tutti ogni tipo di carne che un uomo possa desiderare mangiare, pasti cucinati sul momento e frutta di ogni genere. Soprattutto, gli uomini potranno dileggiarsi per l'eternità con fanciulle vergini ori dai bellissimi occhi simili a perle. Le fanciulle rimarranno per sempre vergini e sono state create appositamente per soddisfare i fedeli per tutta l'eternità. Nella nostra società queste sarebbero chiamate donne oggetto sottomesse ai desideri degli uomini. La domanda che sorge spontanea è: perché tali abusi quando è ben noto che i musulmani non dovrebbero bere alcolici né fornicare durante la loro esistenza terrena? Ma non è tutto. Il Corano prosegue dicendo che vi saranno anche fanciulli maschi. Nota. La tradizione islamica suggerisce che non andranno oltre i 14 anni di età a disposizione dei fedeli. Sembrerebbe che Allah venga incontro anche a chi ha tendenze omosessuali e pedofile. Ritengo che questo ingrediente sia veramente difficile da accettare e sopportare da parte dei musulmani, ma è quello che si evince leggendo il testo. A meno che non vengano loro stessi con versetti alla mano a darci spiegazioni convincenti sul contrario. Anche un famoso autore e predicatore musulmano egiziano, manca il nome, laureatosi proprio nella culla della conoscenza islamica all'Università Al-Azhar del Cairo, scrisse un libro sul tema dell'omosessualità in paradiso, particolarmente con ragazzi giovani. Ovviamente quel libro venne censurato dalle autorità egiziane e fu esaminato dalla Suprema Corte Islamica, considerata la massima autorità coranica. Questi giuristi, riunitisi per l'occasione, dopo aver esaminato attentamente il libro, confermarono che tutto quanto veniva detto nel libro, per quanto essi potessero capire in termini di paradiso e di rapporti sessuali, era valido. Con questo avallo del libro, il sospetto è stato ufficialmente accreditato, anche se alcuni musulmani sostengono che il paradiso descritto nel Corano è mistico e spirituale, da non intendersi letteralmente. Ma vorrei che fosse il lettore a giudicare da solo. Per questo riporto qui sotto dei versetti della tradizione islamica che spesso si commentano da soli. Si tratta di citazioni di un antico collezionista, Al-Tirmidhi, considerate molto autorevoli nel mondo islamico. Il messaggero di Allah, pace su di lui, disse: «In paradiso ci è un grande magazzino dove, invece di vendere e comprare, ci sono forme di uomini e donne, e quando un uomo desidera una forma, vi potrà entrare». Al-Tirmidhi 5646, raccontato da Ali ibn Abu Talib. Che cosa significa? Quando un uomo desidera una forma vi potrà entrare. Stando alla citazione di cui sopra, in paradiso ci sono forme di donne e di uomini. Può accadere che un uomo entri in un uomo? Nessuno può escluderlo a priori. Quindi il Corano, anche se non esplicitamente, contiene riferimenti su possibili rapporti omosessuali in paradiso. Va detto che però è molto più marcata l'enfasi sull'attività sessuale con le belle fanciulle, in molti brani che solleticano le fantasie dei lettori maschi. In quel giorno, i compagni del paradiso avranno gioiosa occupazione, essi e le loro spose, distesi all'ombra su alti letti. Colà avranno frutta e tutto ciò che desidereranno. Sura 36, 55-57. Sarà detto loro: mangiate e bevete in serenità, ricompensa questa per quel che avete fatto. Staranno appoggiati su divani disposti in ranghi e daremo loro in spose le fanciulle dai grandi occhi neri. Coloro che avranno creduto e che saranno stati seguiti nella fede dalla loro progenie, noi li riuniremo ai loro figli. Non diminuiremo in nulla il merito delle loro azioni, poiché ognuno è pegno di quello che si sarà guadagnato. Provvederemo loro i frutti e le carni che desidereranno. Si scambieranno un calice immune da vanità o peccato. E per servirli circoleranno tra loro giovanetti simili a perle nascoste. Sura 52, 19-24. E accanto a loro ci saranno quelle dagli sguardi casti, dagli occhi grandi, simili a uova nascoste. Sura 37, 48-49. Posso insegnarvi qualcosa meglio di ciò? Per quelli che sono timorati ci sono, presso il Signore, giardini nei quali scorrono ruscelli, ed essi vi resteranno in eterno, e spose purissime e il compiacimento di Allah. Quindi Allah osserva i suoi servi. Sura 3 un quarto. In verità avranno successo i timorati, giardini e vigne, fanciulle dai seni pieni, non cadenti, e coetanee. Sura 70, 31-33. Vi saranno colà quelle dagli sguardi casti, mai toccate da uomini o da demoni. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sura 55, 56-57. I musulmani, vergognandosi un po', traducono velatamente, nelle lingue occidentali, questo passo, ma per scrupolo di traduzione, dobbiamo dire la versione originale del Corano, in lingua araba, dice: quelle dagli sguardi casti, a cui né uomini e né spiriti abbiano deflorato l'imene, lam yatmithunna. Soltanto una versione inglese ne riporta letteralmente le parole: whom none man or jinn has opened their hymens with sexual intercourse before them. Eccessi sessuali in paradiso. Riportiamo altre sorprendenti ammissioni di Maometto. Uno chiese all'inviato di Allah: avremo rapporti sessuali in paradiso? Egli rispose: sì. Lo giuro per il nome di Allah, che mantiene la mia anima nella sua mano, che ci saranno vigorosi rapporti sessuali, e quando l'uomo finisce con la sua donna, questa diventerà ancora vergine immacolata. Sheikh Sharawi, Legal Opinions, p. 36. Ad ogni uomo, in paradiso, verrà data la potenza di 100 uomini per mangiare, bere e avere rapporti e desideri sessuali, de Qurtubi, dalla collezione Tadkira. Esse, dopo aver avuto rapporti con questi uomini, non perdono la verginità, i seni mai cadenti, ma anzi sodi. Le donne che in paradiso muoiono saranno ricreate vergini per i maschi. Cosa succede con la moglie che sulla terra era un altro? Vedi espositori di Al-Ghalan, p. 328, p. 451-453, p. 499. Ogni giorno 100 vergini saranno a disposizione di ogni credente, e il più umile in paradiso avrà 80.000 servi e 72 mogli. Hadith Mishkat al-Masabif. Misa velli fulo immala ala wabila sul matta in alif. Dopo la visione di questi brani, non stupisce che i musulmani vengano facilmente convinti a suicidarsi per la causa di Allah. Hanno davanti a loro un radioso e felice futuro, per giunta. Immediato. Infatti viene loro detto che se moriranno come martiri, in paradiso potranno godere di tutto questo per sempre. È la via per il paradiso islamico. Come si va in paradiso secondo i musulmani? È opportuno precisare che nell'Islam è inesistente la teologia del patto di Dio con l'uomo, poiché Allah, nella sua caratteristica di Dio supremo, non può scendere a patti con l'uomo. Per i musulmani, insistere sul fatto che Dio ha fatto un patto con l'uomo significa degradare il creatore dei suoi attributi di Dio padrone. Pertanto, anche se l'uomo si pente, non è il pentimento che può salvare. La descrizione coranica di Dio non corrisponde a quella del Dio della Bibbia che cerca i perduti. Allah odia i non credenti, i peccatori che scelgono la propria indipendenza. Quindi, per andare in paradiso occorre farcela con le proprie forze. La morte da martire è la via più breve. Ecco la descrizione del giardino che è stata promessa ai timorati, di Allah ci saranno. Ruscelli di un'acqua, che mai sarà malsana, e ruscelli di latte, dal gusto inalterabile, e ruscelli di un vino delizioso a bersi, e ruscelli di miele purificato. E ci saranno per loro ogni sorta di frutta, e il perdono del loro Signore. Essi sono forse simili a coloro che rimangono in perpetuo nel fuoco e che verranno abbeverati di un'acqua bollente che devasterà le loro viscere? Sura 47, 15. Eppure, se il Corano è la parola di Dio, rivelata a Maometto, questa rivelazione dovrebbe almeno essere conforme alla precedente Nuovo Testamento e, cioè alla vera e unica parola di Dio? Secondo Ebrei mezzogiorno e 14, occorre la santità completa per vedere Dio. Nessun impuro potrà entrare in cielo. Isaia 35, 8, Apocalisse 21 e 27, Abacuc 1 e 13. Nel Corano C è un'uscita di sicurezza per sfuggire alla regola biblica. Il salario del peccato è la morte e separazione eterna da Dio. Il Purgantico Testamento, o Rio islamico. Come in altre religioni, anche nell'Islam esiste un purgatorio, luogo di attesa per coloro che, sulla terra, non hanno compiuto buone azioni a sufficienza da meritare il paradiso immediatamente, ma i cui peccati non sono così gravi da meritare la severa punizione dell'inferno. Il girone più basso sarà occupato dai musulmani che sono usciti dall'inferno, dopo aver espiato i loro peccati. Maometto dice che essi entreranno in paradiso a carponi. Essi staranno in lista di attesa per molto tempo in agonia, ansia, terrore. Hanno bisogno di compiere altre buone azioni per entrare nell'Eden. Vivranno in una sorta di stress psicologico aspettando che colui a cui hanno fatto un'ingiustizia li perdoni. Essi guarderanno l'inferno supplicando Allah di non gettarli nel fuoco. Il paradiso islamico con Nuovo Testamento radice Q a Nuovo Testamento affermantico testamento da Gesè. Per smentire i cristiani, Maometto, prese a dire che noi sbagliamo a non credere nel paradiso fisico e sensuale secondo la sua convinzione. Lo troviamo riportato nella tradizione islamica? Maometto disse, attenti a riguardo dei giudei e dei cristiani. I primi smentiscono Maometto. I cristiani affermano che in paradiso ne si mangia, né si beve, né sesso. Sahih al-Bukhari hadith 6, 252, riportato da Musab. Ciò che ci dovrebbe inquietare e illuminare allo tempo stesso le menti dei musulmani sta nel fatto che Maometto insisteva nella sua versione di paradiso, ben conoscendo che essa era diversa sia da quella giudea che da quella cristiana. Come sarà il paradiso per i cristiani? Matteo 5, 8, è riservato ai puri di cuore. Efesini 5.57, Galati 5, 19, 21, Romani 14, 17. Certamente non vi saranno fiumi di vino ma fiumi di acqua viva, Apocalisse 21, 6 a 8, 22. La Bibbia descrive il cielo come una città bella quanto unica, come un giardino paradiso. Non ci sono mai riferimenti, neppure vaghi, a piaceri sessuali che sono frutto di una visione carnale. Ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. Apocalisse 22:12-16. È palese che il paradiso descritto da Maometto trova la sua origine nella mente farneticante dell'uomo, creatura finita e sensuale, ma non nella volontà da Dio. Citazioni tratte dal sito http://answering-islam.org/behindveil/btv13.html aggiornato al 12 febbraio 2007 llllvvezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz L'essura appena citata insinua che la salvezza si ottiene grazie all'appartenenza a una religione, quella islamica. Per noi è noto che nessuna religione salva. Le anime non hanno bisogno di religione, nemmeno di assurde regole o di sottomissione legalistica. La Bibbia ci rivela che hanno acquistato la salvezza coloro che hanno posto la propria fede soltanto in Gesù Cristo. La religione è un tentativo dell'uomo di cercare Dio, mentre Dio ha sempre cercato l'uomo, lo ha fatto incarnandosi nella persona di Gesù Cristo, il quale si è offerto in sacrificio sulla croce per noi affinché, perdonati e riconciliati con Dio per mezzo del suo sangue, abbiamo pace con Dio e la vita eterna. Invece alcune sure del Corano dicono esplicitamente che soltanto le buone opere che saranno conteggiate e di conseguenza forse potranno salvare l'uomo. Coloro che invece credono e operano, colà il loro saluto sarà pace, Sura 14:23. E esegui l'orazione alle estremità del giorno e durante le prime ore della notte. Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. Questo è un ricordo per coloro che si ricordano. Sii paziente, che Allah non manda perduta la mercede di coloro che fanno il bene. Sura 11:114-115. Inoltre, Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio il giardino, poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano. Chi più di Allah rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande. Dai la buona novella ai credenti. Sura 9:111. Il peccato, secondo la dottrina islamica, non causa la lacerazione irreparabile del rapporto dell'uomo con Dio e nemmeno comporta la separazione eterna da Lui. Secondo la loro fede, Dio usa la bilancia del bene e del male in base alla quale, se le opere meritorie sono maggiori di quelle immeritevoli, forse potranno salvarsi. Si rimane sempre nell'incertezza. I musulmani sono anch'essi consapevoli di essere peccatori e sanno di non possedere la certezza della salvezza. Essi, come i seguaci di qualsiasi altra religione, pur credendo nella salvezza ottenuta mediante le opere buone, sanno di essere destinati a subire il giudizio di Dio. Come si evince dalla citazione sopra, sono però esenti dal giudizio di Dio i martiri che, nel corso della guerra santa, muoiono come kamikaze o uccidono gli infedeli, missi. Noi vogliamo aiutare i musulmani a risalire alla verità. La salvezza si ottiene per grazia mediante la fede nell'opera sufficiente di Gesù. Ma perché si basano sulle buone opere? Se sapessero quello che il Corano afferma, sarebbero aiutati a rinunciare alla loro propria giustizia e ad affidarsi alla sola grazia in Cristo. Nessuno di voi mancherà di passarvi. Ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore. Sura 19:71. Questa sura è riferita all'inferno. Lo afferma il verso 68 che la precede di poche righe. L'affermazione riportata nel riquadro implica che tutti, pii e meno pii, compreso Maometto, passeranno per l'inferno. Anche il commentatore islamico Roberto Hamza Piccardo lo conferma nella nota 30, pagina 267 del Corano e scrive: punto ogni uomo dovrà passare su di un ponte gettato sull'inferno, ponte Sirat. Questa credenza islamica è simile a quella della religione di Zoroastro, risale almeno al 1000 a.C. Infatti, fra le credenze dei zoroastriani, a proposito del giorno del giudizio, si crede che se le buone azioni superano quelle cattive, la persona attraversa un ponte e va in paradiso. Ma se le azioni cattive superano quelle buone, il defunto precipita dal ponte e cade nell'inferno. I zoroastriani vivevano in Arabia e furono chiamati da Maometto, popolo del libro, arabo A.H.L. al-Kitab. Questi cercheranno di prostrarsi, ma la loro schiena sarà rigida come un pezzo di legno ed essi non riusciranno a prostrarsi. Allora il ponte verrà gettato sopra l'inferno. Noi, i compagni del profeta, dicemmo: «O apostolo di Allah, cos è il ponte?» E gli disse: «È un ponte scivoloso sul quale ci sono ganci e uncini come un seme spinoso, che è ampio da un lato e stretto dall'altro, e a spine dalle estremità ricurve. Un tale seme spinoso si trova nel Najd ed è chiamato As-Sadan. Alcuni credenti attraverseranno il ponte con la rapidità di un battito di ciglia, altri veloci come il fulmine, un forte vento, cavalli veloci o cammelle. Così alcuni saranno salvi senza danno, alcuni saranno salvi dopo aver ricevuto qualche graffio e alcuni cadranno giù nell'inferno, fuoco. L'ultima persona ad attraversare verrà trascinata oltre il ponte. Il profeta disse: «Voi musulmani non potete essere più insistenti nel pretendere da me un diritto che vi è stato chiaramente dimostrato come vostro, di quanto non lo siano i credenti che intercedono presso l'Onnipotente per i loro fratelli musulmani in quel giorno quando si vedranno al sicuro. La preghiera è la speranza del devoto musulmano. O Dio, prego per la luna della perfezione. O Dio, prego per la luce che brilla nelle tenebre. O Dio, prego per la chiave alla porta della pace. O Allah, prego per l'intercessore dell'umanità. O Allah, o te grazia di Dio, Maometto, sono spaventato e terrorizzato. O tu grazia di Dio, Maometto, sono disperato, aiutami tu, Maometto. Non ho buone opere nelle quali mettere la mia fiducia. Salva il tuo grande amore e la mia fede in te, Maometto. Tu sei la mia salvezza dal male di questa vita e nell'ora di morte, e libera il mio corpo dal fuoco», tradotto dal libro religioso, dalla Il Kairat. L'inferno, secondo l'Islam. Fra i beati del paradiso e i dannati dell'inferno vi sarà un velo, e sull'Araf che impedirà agli uni di vedere gli altri, mentre nel limbo si troveranno quanti possono vederli entrambi. Essi diranno agli ospiti del giardino: «Pace a voi», virgolette, senza potervi entrare, sebbene lo desiderino ardentemente. Sura 7 e 46. Gli esegeti islamici stanno ancora dibattendo sul termine Araf. L'esegesi classica, Tabari 8, 189-191, afferma che esso indica la muraglia che divide l'inferno e il paradiso. Altri esegeti dicono che sia il luogo in cui i credenti le cui opere di bene sono pari a quelle negative, attendono fiduciosi che Allah decida le loro sorti. Si veda commentario al Corano di Ukoi, nota 1, pag. 141. A questo proposito, se non siamo soddisfatti nel leggere il commentatore, ecco una chicca che vi viene regalata dalla tradizione più rispettata nel mondo islamico, sempre a sostegno del paradiso coranico e perfino dell'esistenza del purgatorio islamico. Una specie di resoconto o di descrizione con stili talvolta simili a quelli della Divina Commedia di Dante Alighieri. Infatti il Corano parla di 7 gironi nell'inferno, anche se qualche versione del Corano traduce 7 porte. E l'inferno sarà certo il loro ritrovo, esso ha 7 porte. Sura 15.44. L'inferno per l'Islam. L'Islam ereditò parte delle tradizioni ebraiche e cristiana, ma sulla mostruosità dell'inferno, il cosiddetto Jannah. Se Dante si lasciava andare all'immaginazione sulla descrizione dell'inferno, Maometto calcò ancora più la mano. Il Corano lo descrive come un paesaggio che induce orrore, pieno di fuoco, serpenti, distese ghiacciate in cui dimorano spaventosi draghi e scorpioni, e dove però non esiste la dannazione eterna, la pena considerata un aiuto per consentire agli uomini di condurre una vita giusta e progredire verso la verità, è solo temporanea. Tutto, insomma, si può perdonare. In questo versetto della tradizione islamica troviamo Maometto che, parlando del ponte sospeso sull'inferno, dice: «Poi il ponte sarà posto attraverso l'inferno». I compagni del profeta dissero quindi: «Apostolo di Allah, cos è il ponte?» Lui disse: «È un ponte sdrucciolevole, il ponte, sul quale sono sistemati dei ganci contornati di spine, largo da un lato e stretto dall'altro. Alcuni dei credenti attraverseranno rapidamente come in un batter d'occhio, altri rapidi come un lampo, altri come un forte vento, altri come veloci cavalli o dei cammelli. Quindi alcuni giungeranno in paradiso senza alcun danno, altri saranno salvati dopo aver ricevuto alcuni graffi, ed altri ancora purtroppo precipiteranno giù nell'Ige. Inferno». Sahih al-Bukhari Hadith 9532b. Il profeta aggiunse: «I profeti, gli angeli e i credenti intercederanno, e ultimo di tutti intercederà l'Eccelso, Allah, che dirà: ora rimane la mia intercessione». Detto questo, prenderà poi una manciata di persone che estrarrà del fuoco i cui corpi sono stati bruciati e saranno gettati in un fiume all'ingresso del paradiso, chiamato l'acqua della vita. Quelle persone usciranno del fiume della vita come perle e riceveranno collane dorate. Successivamente, dopo essere stati ammessi in paradiso, le persone del paradiso diranno: «Queste sono le persone emancipate dal Clemente. Lui li ha messi in paradiso senza che loro abbiano compiuto alcune buone opere e senza spedire avanti alcuno buono. Per loro, non ha alcuna cumilà, l'incertezza della salvezza. Allah perdona chi vuole e castiga con chi ritiene farlo. Allah è potente su qualsiasi cosa». Vedi anche Sura 2284. Preferito da Abu Huraira. Lo stesso Maometto non era sicuro di essere salvato. Di Maometto non costituisco un'innovazione rispetto agli inviati, né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito. Sura 46, 9. In questa citazione Maometto ammette di non sapere cosa sarebbe stato di lui e dei suoi seguaci. Una volta scoperto che il Corano e Maometto non offrono certezze a chi possono rivolgersi i musulmani. Tuttavia, incontrerete alcuni musulmani che, senza produrre prove concrete, affermano di avere la certezza della salvezza. Forse per attirare nuovi aderenti alla loro religione, o tanto per adeguarla al mercato delle religioni. Al contrario della Bibbia, né il Corano né la tradizione islamica offrono alcuna certezza di salvezza agli uomini. Nel Corano, solo ai martiri viene garantito il paradiso con tutte le gioie in esso elencate, fra cui avere il privilegio di disporre di 70 vergini. Maometto sincretista. Quanto abbiamo fin qui letto contiene degli elementi che ritroviamo in una religione antichissima, lo zoroastrismo. Fondata da Zarathustra e stabilita da Ciro il Grande in Persia come religione di Stato nel 500 a.C., gli aderenti a questa religione, ancora praticata oggi da alcuni milioni di persone nel mondo, tra i quali molti curdi, credono in l'anima dell'uomo dopo la morte attraverserà un ponte dove le opere meritorie e quelle malvagie saranno pesate. Ogni persona cadrà nell'inferno, oppure riuscirà ad attraversare il ponte per raggiungere il cielo. Ogni persona all'inferno dovrà essere purificata e quindi liberata dalle fiamme, nel purgatorio. Nello zoroastrismo sono previste 5 preghiere quotidiane, precedute da abluzioni. Le loro scritture oggi inesistenti erano scritte in forma di poesia sacra, proprio come più tardi il Corano pretenderà essere stato ispirato, in meraviglioso stile poetico. Maometto nacque oltre 1000 anni dopo questa religione. I musulmani devono dare una spiegazione convincente del motivo per cui molte credenze praticate dai seguaci di Zarathustra sono finite nel Corano e purtroppo suggellate come parola di Allah. Al contrario, se non possono spiegarle, devono accettarle come favole e riflettere sul fatto che queste credenze sono state tramandate a Maometto dai pagani del suo tempo. Il Nuovo Testamento ci lascia dei solenni avvertimenti riguardo al futuro di uomini che si volgeranno alle favole. Ecco alcuni di questi avvertimenti. Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Secondo Pietro 1 e 16. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Secondo Timoteo 4, 4. Punto, punto, punto. Non diano retta a favole giudaiche, né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Tito 1 e 14. Ma rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà. I Timoteo 4, 7. Ai nostri amici musulmani non rimane che la realtà offerta da Gesù, il Figlio di Dio, il quale ha affermato: in verità, vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5,24. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gio versetto 14,6. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Romani 10:11. Concetto di purgantico testamento o RIO. Allah capriccioso. Sahih al-Bukhari, Hadith Hadith 9532b, narrated by Abu Sa'id al-Khudri. Il profeta aggiunse: i profeti, gli angeli ed i credenti intercederanno e, ultimo di tutti, intercederà l'Eccelso, Allah, che dirà: ora rimane la mia intercessione. Detto questo, prenderà poi una manciata di persone che estrarrà dal fuoco i cui corpi sono stati bruciati e saranno gettati in un fiume all'ingresso del paradiso, chiamato l'acqua della vita. Quelle persone usciranno dal fiume della vita come perle e riceveranno collane dorate. Successivamente, do essere stati ammessi in paradiso, le persone del paradiso diranno: queste sono le persone emancipate dal clemente. Lui li ha ammessi in paradiso senza che loro abbiano compiuto alcune buone opere. Poi sarà detto a loro: per te quello che hai visto è il suo equivalente compreso. L'iso sendo le cheente capile in caefia. Then he forgives whom he pleases and chastises whom he pleases. And Allah has power over everything. Sura 2284. Di Sok Seduinometto, non costituisco un'innovazione rispetto agli inviati, né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito. Sura 46:9. Allah capriccioso, IAMOMETTOSIAUTOCONSSRE. Sahih Muslim Hadith Hadith 228, narrated by Abu Huraira. When it was revealed to the Messenger of Allah, peace be upon him, to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is earth, and whether you disclose that which is in your mind or conceal it, Allah will call you to account according to it. Then he forgives whom he pleases and chastises whom he pleases. And Allah has power over everything. Sura 2284. Di Maometto, non costituisco un'innovazione rispetto agli inviati, né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito. Sura 46:9. Con questa affermazione, Maometto ammette di non sapere cosa ne sarebbe stato di lui e dei suoi seguaci dopo la morte. Una volta scoperto che il Corano e Maometto non offrono certezze, a chi possono rivolgersi i musulmani? Tuttavia incontrerete alcuni musulmani che, senza produrre prove concrete, affermano di avere la certezza della salvezza. Forse per attirare nuovi aderenti alla loro religione. Non rimane che la possibilità offertaci da Gesù, il Figlio di Dio, il quale ha affermato: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14:6. Antico Testamento tu. Con questa affermazione, i musulmani vogliono denigrare la perfezione assoluta di Gesù con lo scopo di eguagliarlo a Maometto. Quanto affermano però non è sostenuto dal Corano, perché questo riporta che Maometto è un peccatore, come tutti gli altri esseri umani. Sii paziente, che la promessa di Allah è verità. Chiedi perdono per il tuo peccato, in arabo li zanubica e glorifica, e loda il tuo Signore alla sera e al mattino. Sura 40:55. Sappi che in verità non c'è, ed io all'infuori di Allah Saria implora perdono per la tua colpa, Ali Zanubika, e per i credenti. E le credenti. Sura 47:19. Punto affinché Allah ti perdoni per le tue colpe, Ali Zanubika, passate e future, perfezioni su di te il suo favore, e ti guidi nella retta via. Sura 48:2. La corretta traduzione della parola Ali Zanubika è per il tuo peccato e non per la tua colpa. Infatti la prima sura è tradotta correttamente. Nella sura seguente infatti è l'angelo Gabriele che invita Maometto a chiedere perdono ad Allah per i peccati commessi. Il Corano, come il Nuovo Testamento, afferma che soltanto Gesù non ha mai commesso un peccato durante tutta la sua esistenza. Dal Corano i musulmani possono evincere che esso attesta la purezza di Gesù, come ci viene detto nel dialogo avvenuto tra l'angelo e Maria, nel quale l'angelo annunzia a Maria la nascita senza peccato di Gesù. L'angelo Gabriele rispose: «Non sono altro che un messaggero del tuo Signore, per darti un figlio puro», in arabo. Zakian. Sura 19:19. Si noti che nel Corano la parola Zakian, uguale senza peccato, è soltanto riferita a Gesù. Essa ha i seguenti sinonimi: senza peccato né colpa, purezza, integrità, onestà, giusto. Dizionario arabo-inglese di Hans Wehr. In una hadith, Ibn Hisham cita Muhammad ibn Ishaq che racconta che alcuni amici di Maometto erano venuti a visitarlo per porgli la domanda: «Profeta di Allah, parlaci di te». Egli rispose: «Ero con un fratello adottivo dietro la nostra casa, mentre guardavamo il gregge quando due uomini vestiti di bianco e che portavano un recipiente d'oro pieno di neve si presentarono davanti a me. Mi presero. Tagliarono in due il mio corpo, tolsero il cuore che tagliarono ancora, ne cavarono un grumo nero, alaka, e lo gettarono via. Poi purificarono il mio cuore e il mio corpo nella neve. 1. Questo hadith molto probabilmente gode solo di un debolissimo coefficiente di affidabilità e non sembra concordare con altre fonti di informazioni più valide. Ha tuttavia il vantaggio di usare in questo testo i termini «il grumo nero», che è poi un'immagine del peccato di Maometto. Un N esito inoppugnabile. Dopo aver considerato quanto sopra, da cui si ricava una descrizione di Maometto peccatore come tutti, io cito al mio amico musulmano quello che il Corano e la tradizione riferiscono su Gesù, l'assoluta assenza di peccato in lui. Se l'interlocutore intende concludere presto il confronto, basterà citargli solo le seguenti cose per accontentarlo. 1. Sin and Atonement in Islam and Christianity, The Good Way, P.O. Box 66, CH 8486, Recon, P4, in inglese e in arabo. Secondo la comune dottrina islamica, l'uomo inizia a peccare dopo che Satana lo punzecchia per trasferirgli il peccato, ossia dal momento in cui nasce. Per esempio, cito le parole di Maometto che furono udite dal suo compagno. Abu Huraira. Il messaggero di Allah disse: «Il pianto del bimbo appena nato coincide quando Satana inizia a punzecchiarlo». Riferito da Abu Huraira. Sahih al-Bukhari hadith 6.71. Abu Huraira disse: «Il profeta disse: "Nessun bambino può nascere senza che Satana lo tocchi quando è venuto alla luce, causandogli lo strillo, ad eccezione di Gesù, figlio di Maria". Riportato da Said bin al-Musayyab. Data la delicatezza dell'argomento, è meglio limitarsi a leggere questi brani del Corano e chiedere loro quali conclusioni traggono in merito. Incontrerete molti interlocutori già scandalizzati di scoprire questi versi nel Corano stesso. Purtroppo l'affermazione del Corano che Maometto era un peccatore comune come tutti noi non sarà facile da digerire per loro, ma almeno non potranno prendersela con noi. Non fate delle critiche e non traete conclusioni al posto loro. Scoprirete che saranno curiosi di sapere di più sulla vita di Gesù. Pur leggendo le suddette sure, alcuni vi diranno che Maometto avrà forse commesso peccati piccoli. Se affermano ciò, sostenete che il Corano non addebita a Gesù neanche questi cosiddetti peccati piccoli e, in ogni caso, potete aggiungere che Dio non fa distinzione fra i peccati piccoli grandi. Settima credenza. Gesù è un profeta come tutti gli altri. Ricordiamo alcuni punti importanti nel lavoro di evangelizzazione tra i musulmani. È necessario di conoscere ciò che essi credono su Gesù. Bisogna iniziare dal punto in cui si trovano. Sempre incoraggiare quelle credenze che sono giuste e corrette. Evitare controversie almeno all'inizio. Illustrare quanto più possibile con aneddoti e racconti. I riferimenti coranici riportati di seguito sono da usarsi inizialmente come punti di contatto per presentare successivamente. Ecco 8 singolari attributi di Gesù che il Corano presenta. 1. La parola di Dio incarnata. O gente della scrittura, non eccedete nella vostra religione e non dite su Allah altro che la verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria, è un messaggero di Allah. La sua parola che egli pose in Maria, uno spirito da lui proveniente. Credete dunque in Allah e nei suoi messaggeri, Sura 4, 171. Nota, qui sopra abbiamo riportato la traduzione letterale dall'arabo. Nel Corano, in italiano, i traduttori hanno aggiunto le parole in neretto che seguono «Gesù figlio di Maria non è che un messaggero di Allah». Inoltre traducono impropriamente una sua parola, invece di la sua parola, come è realmente scritto in arabo nel Corano, la sua parola, Ashota. Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, Giovanni 1:1. 2. Secondo il Corano, l'emanazione spirituale di Dio. Il Messia Gesù, figlio di Maria, è il messaggero di Allah, la sua parola che egli pose in Maria, lo spirito da lui. Sura 4171b. 3. Il Messia. Vedi spiegazione della parola più avanti. Quando gli angeli dissero, O Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da lui, traduzione esatta, la parola da lui proveniente, il suo nome è il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, uno dei più vicini, Sura 4-1/4. 4. Nato da una vergine. Ella disse, «Come potrei avere un bambino se mai un uomo mi ha toccata?» Disse, «È così che Allah crea ciò che vuole». Quando decide una cosa dice solo, «Sì, ed essa è». Sura 3:47. 5. La misericordia universale di Dio. Rispose, «È così, il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me». Faremo di lui, Gesù, un segno per le genti e una misericordia grazia da parte nostra. È cosa stabilita. Sura 19:21. 6. Il segno per tutti i mondi. E ricorda colei che ha mantenuto la sua castità. Insufflammo in essa del nostro spirito e facemmo di lei e di suo figlio. 7. La guida a cui obbedire vale anche per i musulmani. Quando Gesù portò le prove evidenti, disse, «Sono venuto a voi con la saggezza, e per rendervi esplicite una parte delle cose su cui divergete. Temete Allah e obbeditemi». Sura 43, 63. «Sono io Gesù stato mandato per confermarvi le Torah che mi ha preceduto e a rendervi lecite cose che vi erano state vietate. Sono venuto a voi con il segno da parte del vostro Signore». Temete dunque Allah e obbeditemi. Sura 3:51. 8. Uomo perfetto, puro e senza peccato. Non sono altro che un messaggero del tuo Signore, per darti un figlio puro. Sura 19:19. In questa sura l'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. senza peccato. 9. Gesù giusto giudice nel giorno del giudizio. Egli è un annuncio dell'ora. Non dubitatene e seguitemi, questa è la retta via. Sura 57, 61. Sahih al-Bukhari. L'apostolo di Allah disse: Per Dio, nelle cui mani ci è la mia anima, senza dubbio alcuno Gesù, il figlio di Maria, tornerà presto tra voi e giudicherà con giustizia l'umanità. Riferito da Abu Huraira. Hadith 4657. Anche dal Nuovo Testamento, scritto più ampiamente ed esplicitamente, vi leggiamo che Gesù ha svelato che il giudizio appartiene al Figlio di Dio. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Giovanni 5, 22-23. Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 16 e 27. Paradossalmente Maometto è chiamato a sostenere, fra la sua gente, che Gesù è il più grande di tutti i profeti. Per non parlare poi di quando, nel Corano, l'angelo Gabriele sgrida Maometto a causa degli arabi riottosi che rigettavano Gesù. Quale egli è, come accade anche oggi. L'angelo gli dice: Quando viene proposto l'esempio del figlio di Maria, il tuo popolo lo rifiuta dicendo: I nostri dei non sono forse migliori di lui? Ti fanno questo esempio perché sono un popolo litigioso. Sura 43, 57-58. Significato del termine Messia nella lingua ebraica e araba. Per noi credenti quel che segue non è elemento necessario allo scopo di indurci a credere in Gesù, ma mi permetto di aggiungere una piccola nota di grammatica araba per migliorare la vostra testimonianza con gli arabi dal punto di vista interculturale. Messia in ebraico Mashiach significa ungere, e l'atto si riferisce all'unzione che in passato veniva fatta su determinate persone o cose, onde santificarle, onde iniziarle ad un compito particolare. Era il caso del sacerdote, del re e del profeta. Il verbo ungere, in arabo messeh, scriverlo in arabo, significa ungere, smacchiare, pulire. La lettera vidrabak si pronuncia con una forte aspirazione. Da questo verbo ha origine la parola messiica, scriverlo in arabo, che significa messia. Il termine messia in arabo significa colui che smacchia, lava, pulisce, poiché nella lingua araba la doppia lettera secondo si pronuncia lunga, quando è posta in un verbo dopo la seconda consonante radicale, indica colui che compie l'azione del verbo. Per esempio, il verbo parlare si traduce con kelemé, mentre kaliem indica colui che parla. Infatti Mosè è chiamato sia dal Corano che dal dizionario in arabo K-A-L-I-I-M Allah, scriverlo in arabo, cioè colui che parlava faccia a faccia con Allah. Quando chiedo ai musulmani che cosa il Messia pulisca, mi rispondono quasi sempre che è venuto per pulirci dai nostri peccati. Altri rispondono la mente dai nostri pensieri cattivi. Ho esposto questa analisi della parola Mesih a diversi studenti musulmani e l'hanno accettata. La loro reazione rivela sorpresa e meraviglia sulla persona di Gesù. Questo è naturale perché, essendo parte del loro linguaggio quotidiano, non vi avevano mai fatto caso. L'unto di Dio. Quando parliamo della persona meravigliosa di Gesù, il Messia, indicandolo come l'unto di Dio, in alcuni casi diamo la possibilità ai musulmani di prendere alla lettera questo termine e di fraintenderlo. Mentre noi cristiani diamo per scontato il vero significato di unto di Dio, i nostri amici, non avendo la preparazione biblica, ne fraintendono il vero significato. E potrebbero pensare che Gesù è unto sporco di grasso. Giustamente penseranno che stiamo delirando. Allora, quando usiamo il termine l'unto di Dio, non dimentichiamo di spiegarne anche il significato. Un paio di probabili raffronti. La testimonianza con i nostri amici può a volte complicarsi, perché le differenze fra il Corano e la Bibbia sono parecchie. Dobbiamo quindi essere pronti al dialogo. I Pietro 3 e un quarto. Noi cristiani spesso affermiamo la deità di Gesù, Nel farlo presentiamo diverse prove a riguardo. Fra queste dimostrazioni potremmo spiegare che la nascita di Gesù è stata diversa da quella di tutti noi. Egli non aveva un padre terreno alla nostra maniera, pertanto anche questa eccezione lo fa essere superiore a ogni creatura, nata prima o dopo di lui. I nostri amici musulmani confuteranno dicendo che, secondo la nostra spiegazione, anche Adamo dovrebbe essere Dio, perché pure Adamo è nato in modo unico dalla terra, e non aveva un padre terreno. Noi non abbiamo mai detto che Adamo sia Dio, ma non di meno loro sosterranno che noi lo crediamo implicitamente. Quando direte che Adamo non è Dio, i musulmani vi risponderanno che allora neppure Gesù è Dio, e diranno che la sua nascita speciale non lo rende diverso da tutti i profeti. Eventuali risposte cristiane. Consiglio di rispondere con delle domande agli amici che cercano la verità. Non riporta il Corano che Adamo sia nato dalla terra? Vi risponderanno sì. Allora Adamo non è nato come Gesù, dallo Spirito. Allora sono ancora uguali? Risponderanno no. Adamo ha peccato? Vi risponderanno sì. Gesù ha peccato? Vi diranno no. Gesù e Adamo sono ancora uguali? La loro risposta sarà no. Perché Adamo, nato dalla terra, ha peccato mentre Gesù, nato dallo Spirito, non ha mai peccato? Se invece di pronunciare subito i dogmi iniziate con queste domande o altre, secondo il vostro stile, aiuterete maggiormente i vostri amici. Non usate la Bibbia come punto di partenza del vostro confronto, non ne avreste il tempo, a meno che non ve lo concedano. Soltanto quando avrete compreso che è il momento opportuno e avrete guadagnato l'attenzione dei vostri amici, potrete continuare la vostra testimonianza sostenendola con la Bibbia. Il Corano insegna che Gesù è asterisco nato da una vergine, Sura 19, 16-35. Asterisco il Messia, Sura 4, 171. Asterisco la parola di verità, Sura 19, 34. Asterisco santo, Sura 19, 19. Asterisco famoso in questo mondo e anche nell'aldilà, Sura 4, 1/4. Asterisco un segno a tutti gli uomini, Sura 3, 49, 5, 113. Vedi Sura 22. Asterisco una misericordia da Dio, Sura 19, 21. Asterisco la parola di Dio, Sura 4, 171. Asterisco asceso al cielo, Sura 4, 158. Asterisco il giudice nel giorno del giudizio, Sura 57, 61. Asterisco un operatore di miracoli, Sura 3, 49. Con questo approccio, solitamente, la comprensione dei nostri amici si amplia, anche se l'intendimento è chiaramente ancora limitato. Ma non ci deve stupire che i nostri amici non afferrino al volo la natura di Gesù, visto che addirittura l'apostolo Pietro e altri discepoli lo capirono poco alla volta. Il passo successivo sarebbe la lettura dei versetti biblici del Nuovo Testamento riguardanti Gesù. La Bibbia insegna di Gesù che asterisco il suo nome vuol dire salvezza, asterisco perdona i peccati, Luca 7:48-49, Giovanni 1:29. Asterisco è la via, la verità è la vita, e nessuno viene al Dio se non per mezzo di lui, Giovanni 14:6. Asterisco controllò gli elementi naturali, mare e vento, Marco 4:37-41, Matteo 14:25. Asterisco è preesistente a ogni cosa, Giovanni 8:58. Asterisco è co-creatore e mantiene l'universo, Giovanni 1:1-14. Asterisco l'Eterno era venuto in carne nella persona di Gesù, Giovanni 5:26-29 con Daniele 7:13, Giovanni 5:18, Romani 9:4-5, Secondo Corinzi 4:4, Atti 20:28, Tito 2:11-14. Asterisco lui stesso lo ha ammesso, Apocalisse 21:6-7, Giovanni 14:6-10, 10:30-33. Asterisco lui lo ripeteva, Giovanni 20:27-29. Asterisco è Dio secondo. Il cristianesimo si distingue dalle altre religioni perché in esso Dio si è manifestato nella storia dell'uomo non solo attraverso i profeti e le sacre scritture, ma essenzialmente mediante suo figlio Gesù, fatto uomo, in tutto simile agli uomini, fuorché nel peccato. In Gesù, Dio si è fatto uomo. GV 1.14. Dio è diventato visibile e conoscibile. 1 GV 1.1. È raggiungibile mediante la fede. GV 6.69. Gesù è il figlio di Dio ed è della stessa natura del Padre. Gesù stesso affermò che chi vede me ha visto il Padre. GV 14.9. Dio ci ha mandato il Signore Gesù che Egli ha prestabilito come propiziazione mediante il suo sangue attraverso la fede. Ro 3.25. Egli si è incarnato per redimere un minuto umanità dal peccato originale ed è risuscitato dopo la sua stessa reale morte in croce. Infatti abbiamo una fede che salva solo se crediamo in Gesù. Egli è andato per noi alla croce, ha espiato la nostra colpa, ci ha comprato a caro prezzo, e perciò dobbiamo rivolgerci a Lui per essere salvati. Mediante Gesù, soltanto abbiamo accesso al Padre. GV 14.6. In Gesù Cristo, Dio ha preso su di sé tutta la colpa. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché diventassimo giustizia di Dio in Lui. Il giudizio di Dio per i peccatori si è così riversato sul Figlio di Dio. Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Ga 1.4. I cristiani nati di nuovo perciò attendono la resurrezione di tutti i morti e credono in una vita eterna. Le più importanti verità di fede sono la Trinità, un solo Dio ma in tre persone Padre, Figlio e Spirito Santo. L'incarnazione si riferisce alla nascita di Dio nella persona di Gesù, della stessa sostanza del Padre e perciò interamente Dio e interamente uomo. La redenzione, ossia la riconciliazione tra Dio e un minuto uomo ottenuta grazie alla morte e resurrezione di Cristo. Lo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità, il mezzo attraverso il quale si manifesta il potere di Dio, Egli ha ispirato le Scritture e continua a vivere nel mondo ispirando nella fede e aiutando a costruire il regno di Dio sulla terra. Anche lo Spirito Santo si presenta a noi come una persona divina anche se ha una funzione diversa dal Figlio di Dio. Egli è il nostro Consolatore, ci aiuta a pregare Dio nel modo giusto e senza di Lui non possiamo riconoscere Gesù come nostro Salvatore e Signore. Gesù può ancora essere, sempre con il metodo delle domande, guidate i vostri amici a scoprire l'unicità di Gesù, il Figlio di Dio. Provate a seguire quest'altro schema di domande. Perché è imperativo notare che questi attributi sono soltanto di Gesù? Perché Dio ha mandato un profeta così unico, parola e spirito di Dio, senza peccato, nato da una vergine giudice del mondo? Chi può giudicare il mondo? Non può essere soltanto Dio, il Creatore? Perché sarà Gesù a giudicare il mondo? Il Corano riporta che tutti dobbiamo obbedire a Gesù. Ma in cosa dobbiamo obbedirgli? Il Vangelo riporta chiaramente i suoi comandamenti. Il vostro amico potrebbe rispondervi che non si ricorda, oppure potrebbe ammettere che non ci sono altri profeti. Caro amico musulmano, tu hai affermato che Gesù non è più straordinario degli altri profeti. Puoi dirmi il nome di almeno un profeta che ha degli stessi attributi divini che il Corano attribuisce a Gesù? Come Gesù. Se vi rispondesse che non si ricorda, chiedetegli: sei almeno in grado di ricordare il nome di un profeta soltanto con almeno uno solo di questi attributi? Se onesto, come spesso succede, vi dirà di no. Terminate chiedendogli con gentilezza: allora non è vero che Gesù è uguale a tutti i profeti? Sono contento che tu lo abbia capito. Vuoi leggere questo Nuovo Testamento? Se poi vorrai, potremo rivederci dopo che ne hai letto qualche capitolo e parlarne insieme bevendo una tazza di tè. Gesù Cristo è Dio Salvatore. Esodo 3.6. Isaia 43.1011. 44.6. Salmo 96.5. Isaia 41.29. Amici cristiani, vi chiedo, gentilmente, di non rispondere al posto del vostro amico musulmano, come per inculcargli quel che dovrebbe fare. In questo modo lo costringereste a difendersi o a chiudersi. Lasciate con amore che il vostro amico cominci a riflettere e a farvi delle domande intorno alla vostra fede in Gesù. Sesta credenza. Geresi e vi vi e n n u u t t o o s s o o l l o o p p e e r r i i s s r r a a e e l l e e. Maometto per il mondo. Ecco un'altra idea che viene usata spesso per detronizzare Gesù, il figlio di Dio. I musulmani a loro sostegno usano citare i seguenti passi dei Vangeli. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1:21. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso pecore perdute della casa di Israele. Matteo 10:5-6. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Matteo 15:24. Ecco alcune possibili risposte. Gesù ebbe un largo seguito di discepoli, nonostante fosse disapprovato e minacciato dai capi religiosi. Pertanto si volse a evangelizzare i pagani. Gesù comandò ai discepoli di andare a diffondere il Vangelo della salvezza in tutto il mondo. Matteo 28:18, Marco 16:15-18, Giovanni 14:6, Atti 4:12. È vero che Gesù venne per Israele, ma solo inizialmente, per preparare i suoi discepoli ad andare in tutto il mondo e a rendere universale il messaggio della sua salvezza. Facciamo loro cercare personalmente gli episodi descritti nei Vangeli, quando anche Gesù stesso evangelizzò gli stranieri. Matteo 15:21-28, 21:33-46, Marco 5:18-20, 7:24, Luca 4:24-27, 7:1-10. Che cosa suggerisce il Corano? Esso contraddice i musulmani. Il Corano riporta che Gesù venne solo per Israele. In altri versetti, però, riporta che venne come un segno di grazia per il mondo intero. Sura 3:49. 21, 91, 19, 21. Per coerenza, i musulmani dovrebbero leggere nel Corano della missione universale di Gesù, mentre è evidente che sono i musulmani, non il Corano, ad attribuire Maometto un compito che non ha avuto, cioè la chiamata per il mondo intero, quando invece è soltanto per gli arabi. Sura 42:7, 43:3. Gesù è venuto per tutti i popoli, e ricorda colei che ha mantenuto la sua castità. Insufflammo in essa del nostro spirito e facemmo di lei e di suo figlio. Rispose, è così. Il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me, faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte nostra. E cosa stabilita? Sura 19:21. Il Nuovo Testamento, scritto 600 anni prima del Corano, riporta per Gesù la missione universale. Citiamo soltanto due passi, anche se invitiamo il lettore ad approfondire questo argomento. A pochi giorni dalla sua nascita, quando Gesù fu presentato nel Tempio a Gerusalemme per adempiere la legge mosaica, il profeta Simeone, guardando il Figlio di Dio, ispirato dallo Spirito Santo, disse: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. Luca 2:29-33. Gesù rivolse il suo ministero anche agli stranieri, non soltanto agli ebrei. Per i musulmani, credere che venne solo per gli ebrei è parlare senza conoscenza coranica né biblica. Tra i molti non ebrei ai quali Gesù rivolse il suo messaggio di salvezza, possiamo citare almeno quando egli si rivolse ai gadareni, Matteo 8:28, ai romani, Matteo 27:54, ai gentili, in Galilea, Matteo 4:15, in Siria, Matteo 4:24, ma vi sono numerose altre citazioni bibliche. Poi Gesù finì la sua missione redentrice, portando a termine il piano salvifico di Dio per l'umanità. Alcuni giorni dopo la sua ascesa in cielo, i suoi discepoli, nel giorno della Pentecoste, annunziarono il Vangelo ai giudei e a tutti coloro che dall'Egitto, dalla Libia e dall'Arabia, erano presenti al discorso dell'Apostolo Pietro, Atti 2, 9-11. Maometto, soltanto per gli arabi sauditi. Ne abbiamo fatto un Corano arabo affinché comprendiate. Sura 43, 3. In tal modo ti rivelammo un Corano arabo affinché tu ammonisca la madre delle città, Mecca, e coloro che le abitano intorno. Sura 42, 7. Sei giunto, o Maometto, da parte del tuo Signore affinché tu ammonisca un popolo al quale non giunse alcun ammonitore prima di te. Sura 28, 46. Abbiamo dato loro un Corano arabo, esente da tortuosità, affinché temano Allah. Sura 39, 28. Abbiamo reso facile questo Corano nel tuo idioma affinché riflettano. Sura 44, 58. Domanda guida da porre. L'affermazione, punto che le abitano intorno, non è riferita a un'area circoscritta piuttosto che a tutto il mondo? Perché, dunque, i musulmani credono di essere depositari della missione di islamizzare l'intero mondo quando il Corano dice proprio l'opposto? Maometto ammise di essere privo di potenza. Un'altra significativa confessione di Maometto si ha quando egli si autodefinisce privo di potenza. Ancora una volta, sembrano essere i musulmani ad attribuire a Maometto più di quello che egli stesso e il Corano non facciano. Di «io non possiedo», nel originale arabo viene detto «io non ho potenza, da me stesso né danno né profitto», all'infuori della volontà di Allah. Ogni comunità ha il suo termine. Quando esso giunge, non viene concessa né un'ora di ritardo né una di anticipo. Sura 10 e 49. Gesù, al contrario, afferma di avere tutta la potenza. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28, 18. Mandato universale per Cristo. Il Corano, molto stranamente, contraddice i musulmani ancora una volta. Infatti, a sostegno di Gesù, esso riporta questa citazione dell'angelo. L'angelo rispose a Maria: «È così. Il tuo Signore ha detto: ciò è facile per me. Faremo di lui, Gesù, un segno per le genti e una misericordia da parte nostra». È cosa stabilita. Sura 19 e 21. Ho constatato che questa citazione del Corano suscita interesse da parte dei musulmani. Le parole «un segno per le genti», riferite a Gesù, non a Maometto, non esclude a priori che sia venuto proprio e unicamente per tutti i popoli. Perché dunque di conseguenza escludere sia venuto sia per gli arabi che per i popoli musulmani? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Matteo 8 e 11. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». Apocalisse 7, 9, 10. Così dicano i riscattati del Signore, che gli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, lette dal mare. Salmo 107, 2. Hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Apocalisse 5, 9, 10. Cercare di smontare il mandato universale di Gesù Cristo come Signore e Salvatore dell'intero mondo è per i musulmani inutile. Il Corano ancora una volta si è dimostrato perdente davanti alla parola di Dio. Quinta credenza. Gesù non è ST Antico Testamento o Crocifisso? Quello che pensano i musulmani. Ricordiamoci sempre che la croce è scandalo per coloro che periscono. Infatti, i musulmani ne sono scandalizzati. Ma non per questo non dobbiamo tentare di aiutarli. Preghiamo per loro, soltanto lo Spirito Santo potrà far comprendere la verità della crocifissione di Gesù. Quando parliamo con loro di questo argomento cruciale, bisogna tenere bene in mente quello che pensano i nostri amici. L'uomo non è nato peccatore. Dio non richiede un sacrificio per perdonare i peccatori. L'idea del sacrificio è ingiusta e crudele. Perdonare disinvoltamente, cioè tollerare il peccato, è il mestiere di Dio. L'approccio classico, dire all'inizio che Gesù è morto al posto nostro perché ha pagato il prezzo dei nostri peccati con la propria morte sulla croce, e che offre la salvezza solo a quelli che si appropriano per fede del suo sacrificio vicario, non basta con i nostri amici. Citare la parola di Dio in Romani 5, 18-19 può qualche volta aggrovigliare la matassa, perché questi brani si riferiscono alla verità secondo cui tutti gli uomini hanno ereditato da Adamo ed Eva una natura peccaminosa e da allora essi sono inevitabilmente portati a peccare. Ma i musulmani fraintendono spesso il senso di questa verità e fra l'altro credo che le persone comincino a peccare dall'età di 6-7 anni perché secondo loro il bambino comincia a quell'età ad essere malizioso e cattivo. Non sarà male sottolineare che coloro che rifiutano il messaggio di Dio saranno giudicati e di conseguenza condannati sulla base dei loro propri peccati e non a causa di quello di Adamo. Adamo ha trasmesso a tutti gli uomini il gene del peccato. Ogni uomo è destinato ad ammalarsi molto presto di questa malattia spiritualmente mortale. Gesù Cristo è la cura per questa malattia. L'altro aspetto non trascurabile è la diffidenza iniziale di molti nei confronti della Bibbia. Non sempre possiamo partire con citazioni bibliche, a volte può risultare vano, anche se naturalmente tutto dipende dall'interlocutore. In generale vale il principio secondo cui la Bibbia va citata con discernimento e a tempo debito. Risulterà necessario usare metafore, similitudini e parabole, a seconda di come lo Spirito Santo ci indicherà nelle diverse situazioni della nostra testimonianza. Iniziamo dunque la nostra ricerca. Un nuovo tipo di approccio. Bisogna cominciare presentando la loro conoscenza del Corano come un dato di fatto. Sicuramente essi sapranno che il Corano riferisce di profeti uccisi per la loro missione. Perché è necessario dire questo? Perché i musulmani sono indotti a credere che Dio può salvare tutti i profeti dalla persecuzione mortale causata dalle cospirazioni degli uomini, compresa quella per Gesù. Anzi, secondo alcuni musulmani, l'uccisione di un profeta equivale a un fallimento di Dio. Quindi essi non credono che il Messia possa essere stato ucciso sulla croce e chiudono l'argomento. Invece, a loro perdizione, il Corano dice loro che ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate di orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi. Sura 2, 87b. Dopo aver letto questa sura, rimangono stupiti e disorientati, perché è incredibile per loro che dei profeti siano stati uccisi ingiustamente. Il Messia, come nessuno prima di lui, venne per rovesciare completamente gli ipocriti religiosi del tempo. È opportuno leggere con loro la parabola dei malvagi vignaioli, in Matteo 21, 33-46. In questo brano Gesù sta preannunciando la sua uccisione proprio da parte degli ebrei religiosi. Che cosa afferma ancora il Corano? Il Corano contiene un brano molto interessante da considerare per quel che riguarda la morte di Gesù. Una volta, Maometto riporta una presunta affermazione di Allah stesso, nella quale viene detto: «Per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne abbia salvato uno sarà come se avesse salvato tutta l'umanità». Sura 5:32. Senza disquisire troppo e senza strumentalizzare questo brano coranico, ci è comunque da dire un cosa. È molto strano che questa affermazione sia riportata nel Corano. Forse potrebbe far riferimento implicitamente a Gesù e farci pensare a lui. Solo un uomo è fonte di vita, di giustificazione e salvezza per tutti. Romani 5, 19 a 6 e 11, poiché lui morì per tutti. E con la sua morte iniziò a salvare uno dei due ladroni sulla croce, senza poi contare Barabba. Ma non possiamo entrare troppo nel merito e cavillare su ciò che questo brano sembra, a prima vista, suggerire, poiché il Corano non è la parola di Dio. Il successivo versetto che preferisco citare con certi critici è quello che smonta l'inutile impalcatura alla quale essi si aggrappano. La credibilità di Maometto. Cito la Sura 28, 44. Tu, Maometto, non eri sul lato occidentale quando demmo l'ordine a Mosè, tu non eri fra i testimoni oculari. Quale prova supporterebbe le dichiarazioni islamiche? Forse la testimonianza di un uomo, Maometto, che visse quasi 600 anni dopo i fatti accaduti a Gesù e che non aveva accesso ai documenti originali, può essere sufficientemente credibile per il raziocinio umano? Sembra proprio di no, come dichiara lo stesso Corano. Un'investigazione appropriata. Gesù non fu crocifisso. Di solito, quando si menziona la crocifissione di Gesù, alcuni musulmani iniziano a citare il Corano in arabo. Non lo hanno ucciso né crocifisso, ma così sembrò loro. Ma Dio stesso lo fece salire verso di lui. Sura 4, 157-158. L'Islam afferma sempre che Gesù non fu realmente ucciso mediante la crocifissione sulla croce. Il Corano, considerato dai musulmani la massima autorità in materia di cultura e in ambito religioso, come vedremo, afferma invece in diversi versetti che Gesù morì sulla croce. Prima di addentrarci in questa apologia che di solito assume toni molto accesi, penso sia utile fare un passo indietro nella storia ed esaminare il retroterra eretico nel quale il messaggio di Maometto si era sviluppato, perché in questa maniera trarremo delle interessanti conclusioni per la nostra ricerca. Benché convincere sia compito esclusivo dello Spirito Santo, seguendo l'argomentazione indicata in questo capitolo, saprete destreggiarvi meglio sull'argomento e soprattutto aiutare di più i vostri amici musulmani. L.A. radice del Opinione islamica. È storicamente provato che al tempo di Maometto esistevano delle sette cristiane in disaccordo tra loro su diverse questioni bibliche. Questi gruppi, pur dichiarandosi cristiani, non avevano nulla a che fare con i cristiani autentici, né con la Bibbia. La presenza delle varie sette religiose nell'Arabia di quel tempo è confermata anche dal Corano. Gli aderenti a uno di questi gruppi si chiamavano Basilidiani, da Basilide, il nome del fondatore, vissuto nel secondo secolo d.C. Essi affermavano che Gesù non era stato ucciso sulla croce. Inoltre credevano che qualcun altro era stato ucciso al suo posto e che il Padre lo aveva fatto ascendere a sé all'insaputa di tutti. Il suo sostituto era stato Simone il Cireneo, colui che lo aiutò a portare la croce e finì per morire su di essa. Le convinzioni errate dei basilidiani si erano perpetuate nei secoli successivi fino a giungere alle orecchie di Maometto. E le ritroviamo per una strana magia perfino all'interno del Corano, la parola di Allah. E dissero: abbiamo ucciso il Messia Gesù figlio di Maria, il messaggero di Allah, invece non l'hanno né ucciso né crocifisso, ma così parve loro. Coloro che sono in discordia a questo proposito restano nel dubbio, non hanno altra scienza e non seguono altro che la congettura. Per certo non lo hanno ucciso, ma Allah lo ha elevato fino a sé. Allah lo ala azagel. Eccelso, saggio. Sura 4, 157-158. Una constantico testamento azione a propria antico testamento A. Alla luce di questo retroscena storico inoppugnabile, è fin troppo evidente che Maometto ha ascoltato anche l'opinione dei basilidiani, suoi contemporanei e concittadini in Arabia, e che successivamente tale credenza relativa a Gesù è diventata anche per lui una delle tante pseudo-verità poi entrate nel Corano. Non è un'offesa, ma un dato di fatto. Nella sura sopracitata notiamo qualcosa che ci ricorda la parola che il serpente sussurrò a Eva: ma davvero Dio ha detto? Infatti, che cosa significa quella piccola frase ambigua, così parve loro, in arabo, subihalahum? Si tratta di una frase che è stata oggetto di molte speculazioni da parte dei musulmani nel corso dei secoli. La spiegazione più nota afferma quanto segue: nella confusione degli ultimi istanti, in qualche modo un'altra persona con i tratti somatici molto simili a quelli di Gesù, secondo certi musulmani si trattava Giuda, venne messa sulla croce mentre Gesù scompariva in cielo, rapito dal Padre. In povere parole, Dio avrebbe esercitato con il suo potere un'illusione ottica. Questo è ciò che credono i musulmani, ed è questo che ci viene detto di solito, senza il minimo accenno al fatto che si tratta di una semplice congettura. Maometto ha fatto diventare parola di Dio quello che aveva sentito dire da altri, a loro volta già sviati dalla verità. Ma continuiamo la nostra indagine. Il Corano messo alla prova. Il Corano sfida le persone critiche a trovare qualche errore e o contraddizione quando afferma di essere perfetto come prova della sua ispirazione. Sura 4:82. Dopo un attento esame, una prima contraddizione che possiamo trovare è questa. Mentre nella Sura 4:157-158 il Corano nega la crocifissione di Gesù, in diversi altri versetti indica il contrario, ossia dà ragione alla realtà dell'avvenuta crocifissione di Cristo. Vediamoli insieme. Le parole di queste sure sarebbero pronunciate da Gesù. Pace a me e dal giorno che sono nato, il giorno che muoio e il giorno che sarò risorto alla vita. Così fu Gesù, il figlio di Maria, la parola di verità su cui litigano. Sura 19:33-34. A detta dei critici musulmani, il brano citato sopra si riferisce a una morte che dovrà avvenire, ma ne esiste un altro. E quando Allah Spanata disse: «O Gesù, asterisco ti porrò un termine e ti elederò a me e ti purificherò dai miscredenti. Porrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli, fino al giorno della resurrezione. Ritornerete tutti verso di me e io quantarucchi alle vostre discordie». Sura 4:5. Notiamo innanzitutto che questo versetto indice una cosa molto importante ai musulmani. Coloro che credono e seguono il Messia, morto e risorto sulla croce, saranno posti in considerazione davanti a Dio al di sopra dei pagani che rifiutano deliberatamente di credere in Dio e nel suo Messia, unico salvatore del mondo. Quindi possiamo dire che il Corano, al contrario di quanto essi affermano, li invita a loro credere per fede in Cristo come Salvatore e Signore, morto e risorto dalla morte sulla croce, il quale ha preso su di sé i peccati di tutti, anche dei musulmani, per restituire a coloro che credono nel suo sacrificio la giustizia di Dio Creatore. Congetture mascheranti col Testamento e nel Corano. Ma questa sura, così come è tradotta in italiano, contiene un errore. Avendo studiato lingua e grammatica araba per alcuni anni, grazie a Dio, sono in grado di leggere le parole in arabo e di confrontarle con la traduzione italiana. Le parole da me indicate in grassetto e precedute dal simbolo asterisco sono traduzioni inesatte dal testo coranico in arabo. Nel versetto soprastante, al posto delle parole ti porrò un termine, il testo arabo scrive «Io ti faccio morire». È palese l'imbarazzo che i traduttori islamici hanno con questo testo coranico in arabo. Solo il Holy Quran, pubblicato da Al-Shirkatul Islamiyah, The London Mosque, 1986, traduce fedelmente con «O Gesù, io ti farò morire», isse. Pertanto ogni Corano in arabo ammette che Gesù morì, ma non è tradotto fedelmente. Ovviamente con la traduzione non veritiera, o meglio non propriamente fedele all'originale arabo, i musulmani vogliono nascondere un'affermazione del Corano che mina alla base quanto da loro sostenuto verbalmente su questo tema. D'altro canto, tutti gli arabi sinceri sono concordi sul fatto che non qar è altra traduzione possibile per questa parola araba. I musulmani qui cadono in contraddizione, usano due tesi e due misure, poiché affermano che la Bibbia, i manoscritti antichi naturalmente è stata cambiata, ma sostengono l'incorruttibilità del Corano. Ma non è tutto. Nel Corano vi sono ulteriori dimostrazioni del fatto che Gesù morì crocifisso per i peccatori, come vedremo adesso. Attualmente Gesù vive in cielo ma tornerà. Mentre il Corano non contiene alcunché riguardo al futuro, i tradizionalisti, andando oltre ogni assurdità, affermano che Gesù discenderà dal cielo dove si trova ora, perché lui non morì sulla croce ma Dio lo fece ascendere in cielo, e tornerà sulla terra, dove vivrà come un comune uomo. Per circa 40 anni si sposerà, avrà dei figli, abbraccerà la religione islamica e poi morirà, Sura 19:34, quindi sarà sepolto nella tomba che è già stata preparata per lui accanto a quella di Maometto, a Medina, in Arabia Saudita. Queste credenze, però, non sono affatto sostenute dal Corano. La tradizione afferma, inoltre, che un giorno Gesù risorgerà insieme a tutto il genere umano e sarà giudicato da Dio come tutte le anime. Gesù è già morto. Leggendo invece la Sura 517, vediamo che si afferma che Dio aveva preso Gesù, termine tecnico che significa far morire. Leggiamo le parole di questa Sura, attribuite a Gesù. Ho detto loro solo quello che tu mi avevi ordinato di dire, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Fui testimone di loro finché rimasi presso di loro. Da quando mi hai prelevato a te, tu sei rimasto a sorvegliarli. Tu sei testimone di tutte le cose. Sura 5, 117. All'interno del mondo musulmano vi sono divergenze sull'interpretazione di questo versetto. Alcuni maestri di dottrina islamica affermano che questa parola significa soltanto dormire e che Allah ha fatto ascendere a sé Gesù mentre era nel sonno. Ma la maggior parte di essi parla di elevare. Questa traduzione volutamente inesatta, ma fatta passare come corretta, la troviamo anche nei Corani in lingua inglese, tedesca e francese, ho verificato personalmente. E dire che i musulmani critici hanno il coraggio di accusare i cristiani di cambiare la parola di Dio. La parola preceduta nel riquadro soprastante dall'asterisco elevato, in arabo, suona letteralmente «mi hai fatto morire». Qualunque arabo in grado di leggere la sua lingua si accorgerà che le parole «quando mi hai elevato a tik» non corrispondono al termine usato nella versione originale in arabo «falamma tawaffaitani», che significa appunto «quando mi hai fatto morire». Gli esegeti musulmani, per negare che con tale versetto il Corano stia legittimando l'avvenuta crocifissione, con tutto quello che ne consegue, affermano che il Corano si riferisce a una morte, quella di Gesù, che avverrà al suo ritorno sulla terra, dopo essersi sposato, avere avuto figli e avere ucciso tutti i cristiani e tutti coloro che mangiano carne di maiale. Se qualcuno dei nostri amici dovesse usare l'argomentazione del significato futuro in questa frase, possiamo rispondere come segue. In arabo esistono due modi per esprimere un'azione futura. Per indicare un futuro vicino nel tempo, si prepone la particella sa al verbo che esprime l'azione. Per indicare un futuro lontano nel tempo si prepone invece la particella saufa al verbo. Nel versetto di cui sopra nella parola araba del Corano si sarebbe dovuto trovare la particella saufa prima del verbo, che però è assente. Quando alcuni interlocutori mi hanno risposto che è questo versetto è inteso al futuro, io ho chiesto loro di dirmi come si coniuga il futuro in arabo. Poiché non potevano ammettere che Dio non conosca la grammatica araba, a questo punto sono quasi sempre tornati alla ragionevolezza. Di fatto, il versetto in esame si riferisce alla morte sulla croce del Signore Gesù già avvenuta, e non alla sua ascensione presso Dio Padre, come i traduttori hanno cercato di far credere. Purtroppo troppo spesso la loro bugia attecchisce, perché la maggior parte di noi non conosce l'arabo. Sempre riguardo allo stesso versetto, ci è un'altra argomentazione a nostra disposizione. Il termine in arabo per «ti faccio ascendere, o Gesù» è ra-trattino basso fiuca, vedi Sura 4-5 traslitterata. Chi non parla arabo può chiedere ai propri amici di leggere il verbo ascendere, rifa, scrivere in arabo, coniugato propriamente nelle sure 4, 157-158, 4-5. Poi bisogna portarli a confrontare questa parola con il verbo tradotto elevare nella sura di intoppo, la 5, 117. In questo caso, la parola non è rafa, infatti essa significa quando mi hai fatto morire. Perché dunque traducono il Corano falsificando la frase con «quando mi hai elevato a te»? Ho anche cercato su commentari al Corano, in lingua araba, una spiegazione della suddetta sura. Ebbene, proprio questo versetto risulta senza commento, mentre tutti gli altri versetti sono commentati. Nella mia esperienza ho constatato che invitando il mio amico arabo a verificare egli stesso che il commentario del Corano tace su questo fatto storico guadagno il suo rispetto e la sua fiducia. Infatti, per un musulmano tutte le parole del Corano hanno un grande valore, e pertanto un versetto non può essere messo in dubbio. Soltanto quando sono messi davanti alle sure abrogate si può persuaderli a ragionare. D'altro canto, Allah, per l'Islam, nella sua grandezza infinita può fare quello che vuole, anche cambiare le sue decisioni e contraddire quello che ha precedentemente rivelato ai profeti. Allah conferma o abroga quel che gli piace. Sura 13 e 39. Dal Corano viene fuori una descrizione di Allah come un Dio capriccioso e volubile, a cui si rimette il pio musulmano per cercare a salvezza. Ribaditelo ai vostri amici. A questo proposito, per rinforzare la vostra predicazione su Cristo crocifisso, vedo necessario rimandarvi al capitolo A dottrina islamica dell'abrogazione, fiducia o sospetto, che si trova in questo libro, Domande da porre ai musulmani. Vi anticipo che tale capitolo da me sviluppato può sembrare molto graffiante. Lungi da me il desiderio di essere polemico. Invece l'ho scritto dopo averlo predicato per anni ai miei amici. Gli uomini di pace, quelli alla sincera ricerca della verità, vi apprezzeranno perché non conoscono questi trucchi che disonorano il Dio di verità. Domande da porre. Per un musulmano, tutte le parole del Corano hanno un grande valore e pertanto un versetto non può essere messo in dubbio. Neanche quello appena esaminato. Qualche volta questa sura coranica precedentemente sconosciuta a molti gli ha aiutati a riflettere con calma. Essa suscita almeno quattro domande importanti che possiamo porre ai nostri amici. Se Gesù non morì sulla croce, allora le sure 19, 15, 33, 34 e 4-5, 517, affermano il falso? Quale spiegazione dai a questi versetti del Corano? Nota la promessa di Allah per coloro che seguono Gesù. I cristiani consacrati non vogliono far altro che seguire il Signore Gesù per il resto della loro vita. Per i nostri amici musulmani questo versetto, contenuto nella Sura 4-5, non costituisce un invito a seguire il Cristo? Caro amico musulmano, non vorresti avere maggiori informazioni tratte dal Vangelo riguardo alla sua morte e alla sua risurrezione? Una conclusione appropriantico testamento a sul Corano, domande di fondo senza risposte. Alla luce di queste investigazioni del Corano possiamo dire che esso non nega a priori che Gesù è morto e risorto dalla morte. Al termine di questa analisi, la vostra costanza avrà aiutato alcuni musulmani a riflettere. I versetti di cui sopra, infatti, suscitano almeno quattro domande importanti per i nostri amici. Di quale morte si parla nella Bibbia? Come è morto? Per chi? Perché era necessario? Queste domande rimangono senza risposta nel Corano. B.L.A. Risposta biblica. Smontata quindi l'impalcatura della credibilità del Corano, passiamo ora a rispondere usando la parola di Dio, arma, efficace e affilata. È indispensabile ricordare che secondo la Bibbia, non qua è perdono e purificazione senza la morte di Cristo e la sua risurrezione. Atti 5, 30, 31. Romani 4, 24. 8, 10, 11. Il sangue di Cristo doveva essere sparso come sacrificio per il nostro peccato. Ebrei 9, 11, 28. Di Pietro 1, 18, 21. Chi non crede alla risurrezione è perduto per l'eternità. Ebrei 12, 2 a 3, Apocalisse 13, 8, i Tessalonicesi 4 e 14. Gesù ha detto e precisato anche nel libro dell'Apocalisse che lui morì e risorse dalla morte e che egli soltanto ha la vittoria sulla morte e sull'inferno, Apocalisse 5, 9 e 12. Gesù diede la sua vita a questo solo scopo. La risurrezione di Gesù è la speranza del vero credente, Filippesi 3, 10, 11, 3 e 21, Pronti a usare sensibilità. La Bibbia ci documenta in molti brani la crocifissione, la morte e la risurrezione. Matteo 27, 32, 54, Marco 15, 22, 39, Luca 23, 33, 47, Giovanni 19, 17, 30, Atti 2, 22, 24, 7, 52, 10, 39, 40, Romani 5, 6, 8, i Corinzi 15, 3 a 7, Filippesi 2, 5 a 8, Ebrei 7, 27, 10 a 10, 12, 2, i Pietro 2, 24, Apocalisse. Vi sono poi racconti di testimonianze oculari, secondo Pietro 1, 16, 21, i Giovanni 1, 1 a 3, i Corinzi 15, 3 a 7, Luca 1, 1 a 4. Atti 5, 30-32. Quando, 50 giorni dopo la crocifissione, Pietro affrontò migliaia di ebrei, Atti 2, 22-24, accusandoli dell'uccisione di Gesù, nessuno replicò, e molti si pentirono, perché sono persuaso che nessuna di esse queste cose gli è occulta, perché questo non è stato fatto nel cantuccio. Atti 26, 26. Andare per gradi. Secondo i musulmani, ognuno è responsabile per il proprio peccato e nessuno può pagare per il peccato altrui. Inoltre, l'idea che Dio chieda un riscatto è impensabile. Al contrario, il Corano illustra il sacrificio di Abramo e cita che Dio stesso provvide il riscatto contro l'immolazione di suo figlio e dice: «E lo riscattammo, il figlio di Abramo, con un sacrificio generoso». Sura 37, 107. Anche oggi i musulmani, in ricordo di questo, celebrano ogni anno la festa del sacrificio chiamata Eid al-Adha. Con il riscatto del figlio di Abramo, Dio ha anticipato ciò che egli stesso avrebbe fatto in seguito per il riscatto dei peccati dell'uomo, al fine di salvarlo dalla morte. Il sacrificio che Dio ha provveduto non è stato solo di 500 montoni, ma molto più generoso, vedi lo schema a pagina 92-93, ha offerto sulla croce la parola di Dio in persona, ossia Gesù Cristo. Il sacrificio vicario preannunciato. Leggete con loro Isaia 53 se vi è possibile e in seguito presentate i versetti dove Gesù annuncia il proprio sacrificio. Vicario e quelli che descrivono la morte di Gesù, Matteo 27, 45, 54, Marco 15. Può essere di aiuto mostrare anche l'affermazione di Gesù. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, Marco 11 meno un quarto. Ciò che Gesù ha ribadito riguardo se stesso era perfettamente in sintonia con quanto il profeta Davide aveva già predetto ispirato dallo Spirito Santo. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Salmo 22, 14, 18. Dopo un migliaio di anni la profezia venne adempiuta nella persona di Cristo, sul monte Golgota fuori da Gerusalemme. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi». Affinché si adempisse la scrittura che dice: «Hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica». Questo fecero dunque i soldati. Giovanni 19, 23-24. Dio ha assunto in cielo Gesù prima che morisse. Il Corano non nega che gli ebrei tentassero di uccidere Gesù attraverso la crocifissione. Il problema sorge quando il Corano, riferendosi agli ebrei, afferma che questi non l'hanno ucciso nel crocifisso. I musulmani insistono che il Corano sostiene che Allah abbia sostituito Gesù con la persona di Giuda sulla croce. In realtà, il Corano non afferma questo. Disinformazione storica nel Corano. Il Corano dimentica che non sono stati gli ebrei gli esecutori effettivi della morte di Gesù, bensì i romani. Infatti, gli ebrei, durante il periodo dell'impero romano, non avevano l'autorità di crocifiggere nessuno. Furono i romani ad eseguire materialmente l'assassinio di Gesù, benché gli ebrei siano rimasti i diretti responsabili della sua morte. Del resto, gli ebrei avrebbero potuto uccidere Gesù con la lapidazione. Questo tipo di morte però meno essi pensavano meno. Avrebbe fatto diventare Gesù un martire, e questa era la conseguenza che più di ogni altra volevano evitare. Incitarono così i romani ad uccidere Gesù mediante la crocifissione. In questo modo Gesù sarebbe morto maledetto poiché, nella legge mosaica sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, Deuteronomio 21 e 23, Galati 3 e 13. È quindi opportuno spiegare ai musulmani che non solo i profeti previdero la missione di Gesù, ma che egli stesso predisse la propria morte e risurrezione, come riportato dai quattro Vangeli. Gesù voleva sacrificarsi, Gesù non si nascose dall'essere arrestato, rifiutò l'intervento degli angeli per proteggerlo e disse: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me». A smentire la loro teoria è efficace la testimonianza scritta che ci lascia l'Apostolo Pietro, dove viene attestato alla folla ebraica che la morte di Cristo. «Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste». Atti 2. E come risultato constatiamo che non soltanto i giudei non hanno smentito Pietro, ma la sua constatazione di fatti in quell'occasione ci dice al verso 41. «Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone». Ecco di seguito alcune delle profezie dall'Antico Testamento che preannunciano l'evento della crocifissione. Salmi 22:15-18, Isaia 53:12, Michea 14:10-21, 43:40. «Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito», Zaccaria 12:10. I principali riferimenti sulla crocifissione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù predice la sua morte a Gerusalemme. Gesù muore. Gesù risorto appare ai suoi seguaci. Appare in Galilea. Mantico Testamento T.E.O. 16:13-28, 20:17-19, 7:45-56, 28:11-20, 28:7-10-16, Marco 8:7-37, 10:32-34. Il sacrificio di Gesù è valido per tutti, per dimostrare che tutti hanno bisogno del sacrificio di Cristo, Maometto compreso. Bisogna confutare l'affermazione dei musulmani che Gesù, secondo i cristiani, è stato sconfitto morendo ucciso. Al contrario, Gesù scelse di venire in questo mondo proprio a questo scopo, per la nostra giustificazione. I musulmani devono scoprire che il peccato può essere solo perdonato dal sacrificio di sangue, Matteo 16:21, 17:22-23, 20:17-19, 20:28, Marco 10:34, 10:11-17, 12:24. In particolare, il sangue di Cristo doveva essere sparso come sacrificio per il nostro peccato, Ebrei 9:11-28, I Pietro 1:18-21. Non ci è perdono e purificazione senza la morte di Cristo e la sua risurrezione, Atti 5:30-31, Romani 4:24, 8:10-11. Per cui a Nuovo Testamento riguarda le a risurrezione, Ebrei 12:2-3, Apocalisse 13:8, i Tessalonicesi 4:14. Gesù diede la sua vita a questo solo scopo, salvarci. La risurrezione di Gesù è la speranza del vero credente, Filippesi 3:10-11, 3:21, Apocalisse 20:4-6, ulteriori riferimenti tratti dal Nuovo Testamento. Matteo 27:32-54, Marco 15:22-39, Luca 23:33-47, Giovanni 10:17-18, 19:17-30, Atti 2:22-24, 7:52, 10:39-40, 13:28-33, Romani 5:6-8, i Corinzi 15:3-6, Filippesi 2:5-8, Ebrei 7:27-10. punto che il suo sangue sarebbe stato sparso per molti, Marco 14:24. Punto che Pietro lo avrebbe tradito e il modo in cui lo avrebbe fatto, Marco 14:30. Gesù non temeva di morire per noi, era il suo scopo. Gesù, parlando di sé quale figlio dell'uomo, anticipa la propria morte per noi peccatori. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, Marco 11:15. Il Vangelo dimostra che la sua ascensione ebbe luogo solo dopo la sua morte e risurrezione. Risurrezione. Nei 40 giorni successivi alla sua risurrezione Gesù si fece vedere vivo dai suoi apostoli, Atti 2:32, 2 Pietro 1:16, ed almeno 500 testimoni oculari, i Corinzi 15:6. Ascensione. Giovanni 6:5-30. 16:7-15, 16:28, Atti 1:1-11, 2:32-33. Qualche resoconto storico. Dati storici sono stati registrati da vari contemporanei di Gesù, anche da quelli più ostili. Ricordiamo Plinio, Cornelio, Tacito e Tallo. In particolare un generale di origini ebraiche al servizio dell'impero, Giuseppe Flavio, riporta e descrive ai Romani quegli eventi nel modo seguente: ultimamente vi era in circolazione Gesù, un uomo saggio, se fosse permesso chiamarlo solo uomo, perché egli era un compitore di opere miracolose, un insegnante per questi uomini che ricevevano la verità con piacere. Egli si attirò il seguito di entrambi gli ebrei e i pagani. Egli era il Messia. E quando Pilato, al suggerimento di noi autorevoli rappresentanti della comunità ebrea, lo condannò alla croce, quelli che lo amavano all'inizio non lo abbandonarono, perché egli apparve di nuovo vivo ai suoi discepoli il terzo giorno, proprio come i profeti avevano predetto queste cose ed altre 10.000 meravigliose cose inerenti a lui. E la tribù dei cristiani, così chiamati da lui, non sono estinti fino a questi tempi. Antichità giudaiche, vol. 8. 111. 3. L'errata convinzione musulmana è basata sulla testimonianza di un singolo uomo, Maometto, che visse ben circa 600 anni dopo Gesù. Dobbiamo precisare che l'uomo della Mecca non aveva accesso alle numerose prove documentate nella Bibbia riguardanti la crocifissione e la risurrezione di Gesù, che abbiamo noi, poiché a quel tempo non esisteva la Bibbia in lingua araba. Maometto poté solo sentire racconti orali su Gesù dagli ebrei, da alcuni cristiani chiamati Nazareni nel Corano, che vivevano in Arabia, e molto probabilmente anche da una delle sue molte mogli di nome Miriam, la quale era cristiana nominale. Pertanto egli, non potendo essere un testimone oculare, poteva solo rifarsi alle opinioni che si era fatto su Gesù, e non a prove storiche e bibliche incontrovertibili. Quarta credenza. È impossibile che Dio di Nuovo Testamento e uomo. Come può Dio prendere forma umana? È infatti un mistero, come quello dell'infinità di Dio, eccetera. Eppure Dio, per mezzo di profeti, dichiarò la nascita di Gesù Cristo quasi un migliaio di anni prima rispetto all'avvenimento. Noi cristiani, perciò, non abbiamo problemi a credere nel Dio Trino, che nel tempo e nella storia scelse di incarnarsi in forma umana. Tutte le altre religioni tendono a magnificare il Creatore e gli attribuiscono la suprema onnipotenza su tutte le cose e su tutte le persone. Esse però non riconoscono che il Dio Creatore trascendente si è fatto conoscere all'umanità nella persona di Gesù. Le religioni del mondo urtano contro questa rivelazione. Anche l'Islam non accetta e o non comprende la manifestazione di Dio nella persona di Gesù. Di conseguenza non può accettare l'idea che Dio sia morto per i peccatori. La fede cristiana è incentrata su un unico Dio che scelse di rivelarsi diventando uomo nella persona di Gesù, il Messia. Egli, il vero Dio, attraverso un eccezionale e miracoloso concepimento si fece umano e fu vero uomo in quanto nacque tramite il corpo umano di una donna. Allo stesso tempo poté compiere miracoli e proclamare direttamente all'uomo la sua parola, senza i consueti intermediari, profeti, angeli, eccetera. Non è un caso, infatti, che tutti i profeti iniziassero l'oracolo dicendo: Dio mi ha detto che. Ma Dio Creatore nella persona di Gesù, iniziava sempre a parlare dicendo: «Tal dei tali ha detto, ma io vi dico». Eventuali risposte. Nella Bibbia troviamo innumerevoli brani che sostengono l'avvenuta teofania, ossia la manifestazione del Creatore, nella persona di Gesù. I musulmani potranno ribattervi che quelle nel Nuovo Testamento sono affermazioni fatte soprattutto dall'Apostolo Paolo, il quale, vi diranno, non solo si è inventato tutto, ma è riuscito a portare i cristiani a credere più in lui che in Dio. Mostrando le lettere di Paolo, per esempio Romani 1, 3 a 4, 9, 5, Filippesi 2, 5 a 7, non sempre riuscirete a convincere il vostro interlocutore musulmano. È comunque utile essere preparati. Vi consiglio di fare un vostro studio al riguardo. Dio è stato crocifisso nella persona di Gesù. Anche se cerchiamo di evitare la polemica, dove possibile, orientiamo la dimostrazione biblica su quei riferimenti dell'Antico Testamento che ebbero concreti riscontri storici e di cui Gesù stesso rese testimonianza nel Vangelo. Non dimentichiamo di dire che la sua incarnazione è un mistero, come lo è la sua eternità. Dio, attraverso i profeti, annunciò questo evento misterioso circa 750 anni prima della sua venuta. Ecco alcuni versetti. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emanuele. Isaia 7,14. Emanuele uguale Dio con noi. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Isaia 9, 5 a 6. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria mezzogiorno 10b. Naturalmente Dio stava parlando di se stesso, in rapporto ad un evento, che a quel tempo era proiettato nel futuro. Per adempiere queste profezie, il Creatore dovette necessariamente incarnarsi, solo così egli poté essere trafitto. La domanda che sorge è: in chi si sarebbe incarnato assumendo le sembianze umane? L'identità di questa persona la scopriamo nel Nuovo Testamento. È Gesù, il Messia, la parola di Dio. Gesù disse: «Essi lo, riferito a se stesso, condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso». Matteo 20 e 19b. È ovvio per tutti che la crocifissione implica l'azione di trafiggere, ovvero passare da parte a parte il condannato alla croce. Pertanto, dopo le parole di Gesù, il versetto sostiene più che sufficientemente l'incarnazione e la crocifissione di Dio. Mediante la persona di Gesù, Zaccaria mezzogiorno 10b. Cosa dice al riguardo il Corano? Nella Sura 2:20, 106, 148, 259, il Corano sancisce che Allah può fare tutto e che ha potere su tutte le cose. I nostri amici, invece, insistono che Dio non poteva diventare uomo nella persona di Gesù, il Messia. Pongono, così, dei limiti ad Allah. Ma l'Allah della Bibbia non ha limiti. Per esempio, essi sanno e credono che Dio parlò a Mosè da un albero verde. Così dice il Corano, che ardeva senza consumarsi. Vedi Sura 28, 30 più nota, N3, a pagina 328, e il Corano, a cura di Hamza Piccardo. Se Dio è capace di scendere sulla terra e parlare da un cespuglio verde ardente, perché non potrebbe assumere le sembianze di un uomo? Cosa dice al riguardo il Vangelo? Il Corano afferma che Gesù è la parola e lo spirito emanato da Dio. Vedi pagina 23. Mostriamo loro quel che dice il Vangelo a riguardo. Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, Giovanni 1:1. Proseguendo la lettura del Vangelo secondo Giovanni troviamo un'ulteriore conferma. E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, Giovanni 1 e 14. Un tipo di approccio. A volte è necessario stabilire un contatto con il vostro interlocutore, parlando di Gesù dal punto di vista del Corano, almeno inizialmente, per creare un ponte con il Vangelo. Lo stesso Corano attribuisce certe caratteristiche a Gesù, come non lo fa per nessun altro profeta, nemmeno per Maometto. Scoprire queste verità può far nascere nel vostro amico la curiosità di volerne sapere di più sulla persona di Gesù. Gesù nel Corano occupa una posizione preminente, anche se non è lo stesso Gesù descritto nei Vangeli. In un certo senso, traspare la divinità di Gesù pure nel Corano, anche se non verrà ammessa dal nostro amico. Chiedetegli di rispondere a queste domande. Al termine della vostra esposizione, se l'amico musulmano si ritiene soddisfatto, aggiungete che non deve più dire che l'apostolo Paolo si è inventato tutto, perché se lo dicesse ancora peccherebbe gravemente. Seconda credenza. Dio non ha un figlio carnale, Gesù. Questo è ovvio per i cristiani. Purtroppo i musulmani accusano i cristiani di credere che Gesù sia il figlio procreato da Dio con Maria. Ciò spiega perché, quando noi affermiamo che Gesù è il figlio di Dio, i musulmani non ci vogliono ascoltare, alcuni ci interrompono con un ghigno, mentre altri ci piantano in asso. Come vedremo in seguito, si tratta di un equivoco grossolano, una questione di diverbio tra musulmani e cristiani da 15 secoli a questa parte. Generalmente, i problemi principali con il musulmano medio sono due. 1. Fraintendimento del titolo figlio di Dio. 2. Presenza nel Vangelo di alcuni versetti in cui Gesù si autoproclama figlio di Dio. Inizio prude Nuovo Testamento e di confro Nuovo Testamento. Si noti la somiglianza tra le parole del Nuovo Testamento e quelle del Corano. E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Luca 1:35. Maria tese una cortina tra sé e gli altri. Le inviammo il nostro spirito, che assunse le sembianze di un uomo perfetto. Disse Maria: mi rifugio contro di te presso il compassionevole, se sei di lui timorato. Rispose: non sono altro che un messaggero del tuo Signore, per darti un figlio puro. Disse: come potrei avere un figlio, che mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina? Rispose: e che ne è così. Il tuo Signore ha detto: ciò è facile per me. Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte nostra. È cosa stabilita. Sura 19:17-35. Bisogna ammettere che il Corano usa quasi le stesse parole dei Vangeli. È importante far rilevare ai nostri amici che, nel Corano, Dio manda la sua parola per mezzo dello Spirito. Ella disse: come potrei avere un bambino se mai un uomo mi ha toccata? Disse: è così che Allah crea ciò che vuole. Quando decide una cosa dice solo sì, ed essa è. Sura 3:47. E ritroviamo il concetto nella Sura 4:171, dove Cristo è chiamato dal Corano la sua parola. Si noti che la traduzione italiana è inesatta. Il testo originale in arabo non contiene le parole messe tra parentesi quadre, bensì quelle indicate tra parentesi tonde. O gente della scrittura, non eccedete nella vostra religione e non dite su Allah altro che la verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria, non è altro che il messaggero di Allah. Unete quanta spirito di Allah fa varona sua parola che egli pose in Maria, lofor, spirito da lui. Proveniente. Credete dunque in Allah e nei suoi messaggeri. A mio parere personale, l'espressione qui resa con lo spirito da lui proveniente può essere parafrasata in italiano come l'emanazione spirituale da lui proveniente. I musulmani derivano i loro fraintendimenti da questi versetti. Essi ritengono che Gesù, semplicemente uomo e profeta, non potesse arrogarsi il diritto di proferire tale bestemmia quando confermò ai sacerdoti di essere chi era: il figlio di Dio. Inoltre, notoriamente, essi accusano i cristiani di credere che Gesù sia il figlio carnale di Dio, nato da un rapporto sessuale fra lui e Maria. Ovviamente ci appresteremo a dire che anche noi rigettiamo e aborriamo una tale bestemmia. Ma Maometto insegnò quanto segue. I cristiani credono che Dio ha preso per moglie Maria e che Gesù è il figlio nato da questa unione blasfema. Lo riscontriamo anche nella tradizione orale. L'inviato di Allah disse, «Ai cristiani sarà detto, chi adoravate?» Loro risponderanno, «Noi adoravamo il Messia». Il figlio di Allah sarà a loro risposto, «Voi siete bugiardi, Allah non ha né una moglie né un figlio». Al-Bukhari Hadith 9532b. Come correggere la visione? Ricordiamo di applicare sempre la regola di iniziare dal punto in cui si trovano i nostri interlocutori, ossia incoraggiare le loro credenze che sono giuste e corrette. Le epistole di Paolo ci istruiscono in tal senso in molti brani. Le differenze, il Nuovo Testamento erne ai termini. La base dell'incomprensione, per un arabo musulmano, spesso non è teologica ma linguistica. In arabo e in generale nelle lingue semitiche, ebraico, aramaico, eccetera, i termini figlio o figlia di, padre o madre di, fratello o sorella di, non presuppongono unicamente un legame di parentela o di figliolanza, ma anche un concetto di affinità per ragioni etniche o tribali, o per indicare associazione o identificazione con qualcuno o qualcosa, figlio del tuono, figlio delle tenebre, eccetera. Tornando al nostro punto, sappiamo che in italiano, come anche in altre lingue, esiste solo un termine per dire figlio. In arabo, per indicare la parola figlio, si usano due termini, weled e ibn. Con il primo weled inserire arabo, si intende esclusivamente un figlio procreato, mentre in genere il secondo, ibn inserire arabo, indica chi assomiglia molto a qualcosa o a qualcuno, e anche, ma dipende dal contesto, un figlio in senso fisico. Insomma, la parola figlio in arabo ibn indica relazioni familiari ed ereditarietà, ma spesso va oltre il semplice significato biologico. Le dinamiche inevitabili. Con il titolo figlio di Dio si sottintende unicamente Gesù come figlio di Dio in senso spirituale, ma in senso carnale. Quando il Corano usa il termine figlio, riferendosi a Gesù, usa sempre il termine errato, weled invece di ibnimis. Inoltre, la matassa si aggroviglia ulteriormente quando noi diciamo che Gesù è figlio di Dio, perché secondo loro questa affermazione riflette il fatto che nella nostra mente il termine sia proprio weled. Così di solito avviene che un cristiano, appena sente che il suo amico musulmano dice Gesù non è figlio di Dio, tende a insistere sul fatto che Gesù è veramente il figlio di Dio. Il musulmano lo fraintende e pensa che quel cristiano stia insistendo sul fatto che Gesù sia weled Allah, il risultato dell'unione carnale tra Dio e Maria, mentre il cristiano intendeva definire Gesù come Ibn Allah. Ecco le quattro famigerate sure che vengono ripetute se non addirittura sbattute in faccia dai musulmani ai cristiani. Dio non perdona chi gli assegna una moglie. Sura 4:48. Dio non generò nessun figlio, weled. Neppure esiste un altro Dio con lui. Sura 23:91. Non si addice ad Allah prendersi un figlio, weled. Sura 19:35. Pronuncia in arabo. Mekena lillahi en yattasjida min weled. Dio non genera, e neppure è stato generato. Sura 112:3. Pronuncia in arabo. Lem yulidu ue. L-E-M Ueled. Il Corano non smentisce che Gesù sia figlio, Ibn di Dio. Sentirete citare spesso le sure summenzionate. Maometto si affannò a dimostrare ripetutamente che Gesù non è figlio di Dio. 5-3, 64, 9-5, 10-68, 19-35, 88, 89, 112. 25:2:37 e 151, ma in realtà il Corano rifiuta soltanto la supposizione che Gesù possa essere il figlio procreato, weled fra Dio e Maria. Però mai il Corano escluderebbe che Dio possa avere un figlio, ibn, in senso spirituale. Anche i Vangeli in arabo usano generalmente il termine ibn e non weled. riferendosi a Gesù. Infatti, anche gli arabi cristiani, parlando con i musulmani arabi, usano sempre il termine Ibn Allah, figlio di asterisco Gesù e Ibn Allah, perché questo titolo indica la relazione spirituale così intima e senza precedenti che ci è tra il Padre e il Figlio, nato dallo Spirito Santo, Luca 1:26, Matteo 1:18, Ebrei 10:5. Asterisco e Ibn Allah, perché questo titolo indica che Gesù è nato in modo soprannaturale da una vergine. I profeti ne predissero il luogo di nascita, le sofferenze e l'espiazione per il peccato, come oggi possiamo riscontrare anche in vari capitoli. Considerazioni culturali opportune. Per risolvere tecnicamente questa difficoltà, diremo loro che c. è differenza nei significati fra le parole Weled e Ibn Avemi. Gesù è Ibn Allah e non Weled Allah. Se il nostro interlocutore, per esempio un marocchino, continua a non capire, potete chiedergli se si definisce Ibn Islam o Weled Islam, se Ibn Marocco oppure Weled Marocco. Sicuramente vi dirà che egli si considera Ibn Marocco, mai Weled, perché non è stato procreato dal Marocco con sua madre. Nell'Antico Oriente, come è stato già detto, il significato dei nomi era molto importante, spesso rappresentava il carattere di una persona. Se proprio il vostro interlocutore musulmano non riesce a capire, ricordategli che le parole Weled e Ibn le trova ben definite nel Corano e nel dizionario arabo, infatti. Nella Sura 277 la parola viandante in arabo rende con figlio della strada, uguale usa Ibn Asab. Nel dizionario arabo la parola guerriero è resa con figlio della guerra, uguale Ibn al-Harb, non Weled al-Harb. A dimostrazione ulteriore possiamo mostrare che gli apostoli Giacomo e Giovanni erano soprannominati figli del tuono. Marco 3:17, Luca 9:54-56. È ovvio anche ai musulmani, da bravi semitici, che il soprannome è simbolico e volto a descrivere il loro forte temperamento. Gesù, appena conobbe Pietro, subito gli cambiò il nome, da Simone lo chiamò Cefa, che in italiano viene reso con Pietro, roccia in aramaico. A questo punto gli amici sinceri non incontrano altre difficoltà a capire il significato legittimo di Ibn Allah, figlio di. In base alla mia esperienza, dopo vari anni di ministero, so che una volta spiegato in questi termini, i musulmani ragionevoli mi rispondono: in questo senso non abbiamo più problemi a capire perché voi dite Gesù è il figlio di Dio. Purtroppo fanno fatica a pronunciare queste parole sacre, dopo tanti anni in cui sono stati indotti a credere in modo sbagliato. Io allora suggerisco di chiamare Gesù d'ora in poi nella nostra conversazione Gesù la parola di Dio. I musulmani che hanno familiarità con il Corano sanno che egli lo è, Sura 4:171. E in questo modo avremo gettato per i nostri amici un ponte verso il Vangelo secondo Giovanni 1:1. La nascita miracolosa di Cristo. Le scritture ci parlano molto di Gesù. Ci dicono che è stato unico nel suo concepimento. Tutti gli uomini dopo Adamo ed Eva hanno avuto due genitori. Tuttavia la sua nascita è stata unica per altri aspetti. La Bibbia dice che l'angelo Gabriele ha predetto la sua nascita, Luca 1:2-4:37. Una stella apparve indicando il luogo dove sarebbe nato. Degli angeli proclamarono l'evento, Luca 2:8-1:4, come adempimento delle profezie nell'Antico Testamento, e prima che egli fosse in grado di parlare dei saggi, vennero dall'Oriente per adorarlo, Matteo 2:11, e si potrebbe continuare con Giovanni il Battista, che quando era ancora nel grembo di sua madre Elisabetta, saltò di gioia alla presenza di Gesù. Luca 1:44, e via di seguito. La nascita miracolosa di Gesù, come sappiamo, trova molteplici conferme nell'antico. Una volta mi sono ritrovato in un dibattito apologetico con l'emiro della moschea di Milano, Ali Abu Shuaima. Quando si affrontava il tema suddetto, questi sfidava i credenti insinuando che mai l'Antico Testamento parlava del fatto che Dio aveva un figlio e che quindi si trattava di un'invenzione apparsa per la prima volta nel Nuovo. Ma io, con la Bibbia alla mano, ho dimostrato il contrario con una serie di versetti, che qui riporto in parte. Io spiegherò il decreto, l'Eterno mi dì. Salmo 2:7. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Isaia 9, 5. Raf. F.R.O. Nuovo Testamento i Biblici. Qualche volta vi chiederanno di trovare un solo versetto dove Gesù dice di essere il Figlio di Dio. La Scrittura, i Suoi insegnamenti, il modello che ci lascia della sua vita e lo Spirito Santo ci convincono per azione dello Spirito Santo che Lui è il Figlio di Dio. Ad esempio, Gesù viene condannato perché accetta il titolo di Figlio di Dio in una prospettiva di essere il suggello delle profezie in Lui adempiute, Luca 22,70. Io sono, Marco 14,62. Sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed egli rispose loro, voi stessi dite che io lo sono. Luca 22,70. Gesù dice, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che l'ha mandato. Giovanni 5,23. Consiglio. Dalla mia esperienza personale, ho imparato a catturare l'attenzione del mio interlocutore in questo modo. Quando il vostro amico vi chiederà, credi che Gesù è Figlio di Dio? Invece di rispondere di impulso immediatamente. Sì, dovete rispondere con la domanda, cosa capiresti che io creda se ti rispondessi affermativamente? Lui vi risponderà naturalmente che credete che la nascita di Gesù è il risultato dell'unione tra Dio e Maria. A quel punto avete voi il controllo della conversazione. L'altro approccio col quale è possibile rispondere alla sua domanda è Gesù non è Ueled Allah, bensì Ibn Allah. Quindi aggiungo la citazione tratto dal Vangelo di Matteo. Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Matteo 1,18. Questo versetto dice letteralmente che Gesù è nato per mezzo dello Spirito Santo. Dopo aver aggiunto che Dio non si sposa, né ha toccato Maria, nel 90% dei casi si raggiunge l'obiettivo di sradicare e abbattere quegli equivoci che ruotano intorno al titolo Figlio di Dio. A questo punto possiamo pregare che, in aggiunta ai chiarimenti ricevuti, lo Spirito Santo dia ai nostri amici la rivelazione, che non possiamo dare noi tramite l'analisi di un termine, e la fame di ricevere Gesù, il Figlio di Dio come suo personale Signore e Salvatore. Prima credenza. Lia Bibbia, EST Antico Testamento A cambia Antico Testamento A. Prima di rispondere a qualsiasi obiezione da parte dei nostri interlocutori musulmani, è bene che chiediamo loro se credono che la Bibbia è la parola autorevole di Dio. Questo perché spesso i musulmani dicono che la Bibbia è stata la parola di Dio per un tempo, ma ora non è più valida. Quindi, prima di rispondere alle loro domande sulla nostra fede, solo per costruire delle basi corrette, dobbiamo ribadire e legittimare l'autorità della Bibbia con delle solide argomentazioni. Non farlo significherebbe seminare e parlare per ore con loro senza credibilità, e qualsiasi citazione biblica possiamo usare secondo loro proverrebbe da un libro falsificato. Il concetto stereotipato che i musulmani critici hanno della Bibbia è che gli ebrei e i cristiani hanno falsificato le sacre scritture, cioè la Torah, i Salmi e il Vangelo. Pochi di loro sono in grado di farlo, ma, nella peggiore delle ipotesi, essi citano soltanto 4 sure nelle quali gli ebrei avrebbero contraffatto, tahrif, le scritture. È importante ribadire ai nostri amici musulmani che in nessun brano del Corano i cristiani sono accusati direttamente di aver contraffatto, tahrif, le sacre scritture. Lo vedremo più avanti. Nel dettaglio. Come tutti sappiamo, i musulmani si attengono al Corano perché secondo loro esso è la parola di Allah. La testimonianza del loro libro sacro riguardo alla Bibbia è però molto positiva, in netta opposizione alle credenze tradizionali. L'espressione gente della scrittura, al-Kitab, citata nel Corano, indica ai cristiani e agli ebrei quali possessori delle sacre scritture. Noi, come cristiani, non crediamo minimamente nelle cose riportate nel Corano. Però è anche vero che per i musulmani, praticanti e non, il Corano rappresenta la parola di un Dio a loro comunicata tramite il loro profeta Maometto. Ma se noi invece citiamo le fonti coraniche, possiamo esortarli ad attenersi almeno a ciò che il Corano testimonia apparentemente contro la Bibbia e sicuramente a favore di essa. Versi che accusano i giudei di distorcere solo Verbal M e Nuovo Testamento e la Torah, al tempo 500° Maometto. Le seguenti tre sure non si riferiscono alla contraffazione scritta ma solo a quella verbale da parte di alcuni giudei. Sperate forse che divengano credenti per il vostro piacere quando ci è un gruppo dei loro che ha ascoltato la parola di Allah per poi. Sura 2, 7, 5. N.D.A. Che ha ascoltato la parola per poi ripeterla verbalmente sbagliata dopo averla compresa. Alcuni tra i giudei stravolgono, Yuarifuna, verbalmente il senso delle parole e dicono: abbiamo inteso, ma abbiamo disobbedito. Oppure, ascolta senza che nessuno ti faccia ascoltare, e Ra'ina, contorcendo la lingua e ingiuriando la religione. Sura 4 e 46. Ma essi ruppero l'alleanza, e noi li maledicemmo, e indurimmo i loro cuori. Stravolgono, Yuarifuna, il senso delle parole. E dimenticano gran parte di quello che è stato loro rivelato. Sura 5 e 13. L'accusa mossa dal versetto coranico deve essere presa con le pinze. Se c'erano dei giudei non credenti che distorcevano le scritture verbalmente, ciò non significa che tutti i giudei fossero increduli. Generalizzare e accusare tutti i giudei sarebbe ingiusto e un peccato davanti a Dio. La parola araba che ricorre in ognuna di queste sure è ar-rafa, mettere più tardi parola araba, che significa alterazione fonetica di una parola. Arabic English Dictionary, Hans Wehr. Nel Corano, l'accusa di fare contraffazione scritta è riferita probabilmente ad alcuni ebrei che conosceva Maometto, e ciò soltanto nella Sura 2, 79. Guai a coloro che scrivono il libro con le loro mani e poi dicono «questo proviene da Allah» e lo barattano per un vil prezzo. Guai a loro per quello che le loro mani hanno scritto e per quello che hanno ottenuto in cambio. Sura 2, 79. Anche se qualche musulmano volesse vedere in questo brano la prova a sostegno della propria tesi, dovrà ammettere che esso non chiarisce a chi si stia rivolgendo, né a quale libro si faccia riferendo. Potrebbe anche trattarsi del Corano stesso. In altri termini, solo usando questo versetto non si può imputare ai cristiani la colpa di aver cambiato le parole. Una nota sulla parola H-A-R-R-A-F-A. I termini arrafa o tahrif indicano delle forme di corruzione verbale riconosciute dai teologi islamici. Secondo questi ultimi si parla di corruzione arrafa, che è un peccato grave davanti ad Allah. Nei seguenti casi. A. Quando si distorce, si corrompe verbalmente o si introducono cambiamenti di parole nella lettura o nella declamazione, in modo tale da far giungere agli uditori un significato più consono al proprio desiderio. B. Quando si leggono solo alcuni brani e se ne escludono altri. C. Quando si istruiscono le persone in maniera diversa dall'insegnamento dato da Do nella scrittura, facendo inoltre credere che questi insegnamenti rientrano nella volontà di Dio e quindi nelle scritture. Quando si interpreta qualcosa con un significato ambiguo che non è quello inteso nella scrittura. E quando si reinventano certi passaggi mistici e allegorici, come il viaggio in volo di Maometto, eccetera. Gli studiosi islamici, come un certo dottor Said, sono concordi sul fatto che le accuse di tahrif nel Corano non possono essere associate alla corruzione scritta della scrittura, ma l'affermazione di questi studiosi islamici ha incontrato però la decisa opposizione da parte di altri teologi musulmani che interpretano l'accusa di tahrif nel Corano come contraffazione delle parole scritte, per usarla a sostegno delle accuse contro i giudei e i cristiani. Il dizionario arabo in ogni caso traduce arrafa dando ragione ai primi studiosi. Possiamo perciò dimostrare che loro stessi commettono arrafa peccato del falsificare se cambiano le traduzioni del Corano per sostenere la loro idea. Quindi l'accusa che rivolgono a noi in realtà si ritorce contro di loro. In tanti anni di esperienza nel presentare il Vangelo ai musulmani, raramente ho trovato qualcuno di loro in grado di citarmi una delle quattro sure trascritte più sopra a sostegno delle loro affermazioni. Pertanto, la grande maggioranza di essi non sa dirvi dove esattamente il Corano accusi noi cristiani quali corruttori delle sacre scritture e, di conseguenza, non è in grado di mostrare delle quattro liviti, prove, mashevauro. Ma cosa dice il Corano a favore della Bibbia? Anche se qualcuno dei nostri amici fosse a conoscenza delle suddette sure, quando noi li mettiamo davanti alle conferme che il Corano contiene a favore della Bibbia, essi non sanno come prolungare l'argomentazione della corruzione a carico dei cristiani. Per esempio, il Corano conferma l'autenticità della Bibbia. La Torah e il Vangelo sono stati dati da Dio a Mosè e a Gesù. Questi testi sacri sono guida, grazia, luce e ammonizione per i popoli. Sure 29, 27, 28, 43, 5, 46, 5, 66, 68, 10, 94, 11 e 17, 40, 53, 54, 48, 29b. Concedemmo ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e nella sua progenie stabilimmo la profezia e il libro. Gli pagammo la sua mercede in questa vita, e nell'altra sarà tra i giusti. Sura 29-27. Riflessione. Non dice alle sue varie progenie, pertanto la linea di Ismaele è esclusa. Non sta qui, chiaramente, implicando che il Corano non può essere e non è la parola di Dio? Se avessero obbedito alla Torah e al Vangelo e a quello che scese su di loro da parte del loro Signore, avrebbero certamente goduto di quello che c'è, è sopra di loro e di quello che c'è, è ai loro piedi. Tra loro ci è una comunità che segue una via di moderazione, ma ben malvagio è quello che fanno molti di loro. Sura 5, 66. Nota, Allah rimprovera chi non legge la sua parola, la Bibbia. Di, o gente della scrittura, non avrete basi sicure finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo, e in quello che è stato fatto scendere su di voi da parte del vostro Signore. Stai certo che quello che è stato fatto scendere su di te, da parte del tuo Signore, accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza. Non ti affliggere per i miscredenti. Sura 5, 68. Nota, i cristiani devono attenersi alla Bibbia, la parola di Dio. O Maometto, e se dubiti a proposito di ciò che abbiamo fatto scendere su di te, interroga coloro che già prima recitavano le scritture. La verità ti è giunta dal tuo Signore, non essere tra i dubbiosi. Sura 10, 94. Nota, Maometto avrebbe dubbi a riguardo delle nostre scritture. I musulmani sono tenuti a osservare le rivelazioni bibliche date ad Abramo, Mosè e a Gesù, perché ritenute fondamentali anche dal Corano. La Torah ed il Vangelo esistevano già prima di Maometto, quando il Corano non era ancora diventato libro. Le sure parlano della messa in circolazione dei testi sacri dei giudei e cristiani. Ogni cibo era permesso ai figli di Israele, eccetto quello che Israele stesso si era vietato prima che fosse stata fatta scendere la Torah. Di, portate dunque la Torah e recitatela, se siete veridici. Sura 3, 93. Prima di te non inviamo che uomini, ai quali comunicammo la rivelazione. Chiedete alla gente della scrittura, se non lo sapete. Sura 21, 7. Nota, Allah, ancora, indica come veritiera la gente della scrittura. La parola di Dio è protetta dalla contraffazione da Dio stesso. Sure 6 e 34, 115. 18 e 27. Le parole di Allah non subiscono alterazione, questo è l'immenso successo. Sura 10, 64. Già i messaggeri che ti hanno preceduto furono tacciati di menzogna, sopportarono con pazienza accuse e persecuzioni, finché non venne loro il nostro soccorso. Nessuno può cambiare le parole di Allah. Ti sarà certamente giunta una parte della storia degli inviati. Sura 6 e 34. La parola del tuo Signore è veritiera, giusta ed esauriente. Nessuno può cambiare le sue parole. Egli ascolta e sa. 6.115. Altre sure dello stesso tenore. 10, 94, 3, 71, 93, 4, 4, 29, 46, 21, 7. Riassumendo, possiamo dire che Maometto avvalora la Torah come la massima autorità, perché è scritta da Dio con le sue mani. Anche se noi cristiani sappiamo che biblicamente non è proprio così, è evidente che il profeta dell'Islam ha capito male le parole di alcuni suoi contemporanei giudei. Inoltre, anche se non riportata dal Corano, la tradizione islamica ci dona un'altra perla. L'inviato di Allah disse, Adamo e Mosè discutevano tra loro. Mosè disse ad Adamo: «O Adamo, tu sei nostro padre che ci deluse facendoci chiudere la porta del paradiso». Quindi Adamo gli rispose: «Namo Mosè. Allah ti ha privilegiato parlando con te direttamente, e per te scrisse la Torah con le sue proprie mani». Riferito da Abu Huraira. Domanda da porre ai nostri interlocutori musulmani. Lea Bibbia sarebbe ST Antico Testamento a cambio Antico Testamento a prima o dopo Lea morte di Maometto? 1. Se rispondono, prima rispondiamo che questo non può essere vero, perché Allah si impegna a vigilare per salvaguardare le scritture bibliche come il Corano stesso riporta. Le parole di Allah non subiscono alterazione. Questo è l'immenso successo. Sura 10, 64. Recita quello che ti è stato rivelato dal libro del tuo Signore. Nessuno può cambiare le sue parole e non troverai all'infuori di lui alcun rifugio. Sura 18 e 27. Quando i musulmani critici affermano che la Bibbia è stata cambiata, corrono anche il pericolo di affermare implicitamente che il Corano si può sbagliare quando afferma l'autenticità della Bibbia. Lo abbiamo visto in molti versetti. Ovviamente un musulmano escluderà una tal cosa. Infatti i musulmani non danno mai risposte precise riguardo queste domande. Questo implica che secondo Allah le scritture erano veritiere al tempo di Maometto, poiché a Dio starebbe forse a cuore di salvaguardare qualcosa di falso? Se la Bibbia fosse stata cambiata durante la vita di Maometto, Allah non avrebbe fallito la sua missione visto che si era incaricato di vigilare per la sua assoluta protezione? Dunque, a che cosa devono credere? Al Corano oppure alla credenza, ormai fin troppo consolidata nel mondo islamico che dà per scontato che la Bibbia sia stata contraffatta? 2. Se rispondono dopo, chiediamo cosa ci dicono ad esempio i 14.000 manoscritti che si trovano al British Museum di Londra, in Vaticano, eccetera, risalenti a prima della nascita di Maometto, i quali, confrontati con i testi biblici attuali, risultano perfettamente conformi. Il Corano chiaramente dice che 1. Le scritture dei giudei e dei cristiani esistevano ed erano trovabili a tempo di Maometto. 2. Maometto comanda i GAC di portare le loro scritture e di leggerle apertamente in pubblico. 3. Numerose e positive sono le frasi coniugate al presente in riferimento alle scritture. 4. Pertanto, se i GAC avessero contorto le scritture, sarebbe avvenuto dopo la morte di 5. L'accusa più ripetuta dai musulmani è che sono stati cancellati in riferimento alla venuta di 6. Dovremmo quindi essere in possesso di manoscritti antichi della Bibbia con questi riferimenti su Maometto. 7. Anche se un manoscritto fosse stato contorto o riscritto sopra, moderni crittografi sono capaci di risalire al contenuto originale e di decifrarlo. 8. Il quinto manoscritto, Codex Ephraemire Scriptus, originariamente conteneva il Nuovo Testamento, ma fu cancellato e riscritto sopra. Bene. Un attento ed esperto lavoro di un tale Tischendorf riusciva a far riemergere il documento originale del Nuovo Testamento. Stiamo parlando di manoscritti secoli più antichi di quelli coranici. 9. Se vi fossero stati riferimenti sulla venuta di Maometto, e quindi cancellati o riscritto sopra, non sarebbe stato difficile risalire al contenuto originale da parte dei paleografi. 10. Nunci è archeologo o paleografo che abbia scoperto dimostrazioni che la Bibbia sia stata cambiata dopo il tempo di Maometto, 7 gradi secolo d.C. 11. Esistono numerosi manoscritti anteriori al 7 secolo d.C. del Nuovo e dell'Antico Testamento. Cid 1. Significativa quantità di porzioni delle scritture dagli antichissimi rotoli del Mar Morto, 100 avanti Cristo e 100 dopo Cristo. Cid 1. Codice Sinaitico, 350 dopo Cristo, Monastero Santa Caterina, Monte Sinai, Egitto. Nuovo Testamento, completo in greco, è verificabile presso la Libreria Britannica a Londra. Cid 1. Codice Vaticanus, 325 d.C., completo Antico Testamento in lingua greca, i quattro Vangeli, Atti e tutte le epistole di Paolo. Questi tesori sono custoditi presso la Libreria Vaticana. CID 1, Codice Washingtonianus, 5 gradi secolo, 500° punto cisto, 4 Vangeli e Atti, custoditi nell'Istituto Smithsonian a Washington. 12. Questi manoscritti antichi, predatati di molti secoli prima del Corano, sono le basi delle traduzioni moderne della Bibbia. 13. Non ci è esistenza di alcun manoscritto che si riferisca a Maometto cancellato dalle scritture. 14. Il cosiddetto Vangelo di Barnaba è un conosciuto ritrovamento del XVI secolo, che risulta essere una fabbricazione artificiosa e vacua, con riferimenti storici errati, sia anche della geografia e di errori contro il Corano. Il Corano è a sua volta infallibile? A rigor di logica, i musulmani più preparati dovrebbero, prima di criticare gratuitamente le scritture, risolvere con lo stesso fervore i problemi nella stesura del Corano, che non è affatto infallibile. Usando le stesse fonti storiche islamiche si arriva infatti a dedurre che il loro libro sacro è tutt'altro che perfetto. Rimandiamo il lettore al capitolo «I cristiani esaminano il Corano». Se queste problematiche nella stesura del Corano non creano loro problemi di affidabilità, lo stesso dovrebbe valere per le nostre scritture. Dovrebbero conoscere queste notizie e spiegarcele. Per esperienza so che talvolta, messi di fronte a questi fatti, i musulmani critici scendono dalla loro sicurezza fino a non sapere quali dei due libri, il Corano da un lato e la Bibbia dall'altro, sia quello esatto. A questo punto posso iniziare ad annunciare la buona notizia. Tante sono le prove che ci fornisce, paradossalmente, proprio la tradizione islamica al riguardo della fallibilità del Corano. Il Corano secondo tradizione orale islamica. Al contrario di ciò che i musulmani insistono a difendere, ci sono le prove che il Corano di oggi è diverso da quello rivelato al profeta dell'Islam. Proprio Abu Musa al-Ashari, uno dei primi autorevoli scribi del Corano, oltre ad essere un diretto collaboratore di Maometto, una volta disse ai suoi amici di Basra: «Una volta recitavamo una sura, un intero capitolo, che era estesa e severa del tipo della sura Barat. Purtroppo l'ho dimenticata ad eccezione di questo unico versetto. Se fossero esistite due valli ricolme di benedizioni per il figlio di Adamo, egli non soddisfatto avrebbe agognato per una terza valle, e nulla tranne la sabbia avrebbe soddisfatto la sua avidità». Sahih Muslim Voltaire 2K, p. 501. Abdullah ibn Omar, fin dai tempi della nascita dell'Itia Islam, è stato piuttosto esplicito su questo. È riferito da Ibn Ibrahim Ismail, da Ayyub, da Nafi, che Abdullah ibn Omar ha detto: «Nessuno di voi dica, ho memorizzato la totalità del Corano». Infatti, come si può sapere che cosa era il contenuto originario complessivo quando gran parte del Corano è scomparso? Piuttosto dite, ho memorizzato ciò che è sopravvissuto del Corano. As-Suyuti, Alit Khan fi Ulum al-Corano, p. 524. Rivolgere ai nostri amici le seguenti domande riguardanti la Bibbia. In quale anno sarebbe stata contraffatta? Questa ovviamente è una domanda retorica. Se sapranno citare l'anno in cui questa ipotetica corruzione ha avuto luogo, forse avranno argomenti più efficienti a sostegno della loro tesi. Quest'AI l'avrebbe manipolata e cambiata. Avete una versione originale per confrontarla con la Bibbia attuale al fine di dimostrare la vostra teoria? Per provare che una banconota è falsa, non la si dovrà confrontare con una vera. Dov è riportato nell'Antico Testamento o nel Corano che la Bibbia e barra o il Vangelo sono stati contraffatti dai cristiani? Come abbiamo visto sopra, il Corano non accenna né riporta mai esplicitamente che i cristiani abbiano cambiato le sacre scritture. Perché dunque sono soliti rivolgersi a noi senza basi legittime? Che testimonianza dà la Bibbia di se stessa? Secondo Timoteo 3,16, secondo Pietro 1,16-21. Evidenze presenti nell'Antico Testamento, i Samuele 9:27, i Cronache 17:3, Isaia 4:8. Evidenze presenti nel Nuovo Testamento, Matteo 13:9, Luca 3:2, Atti 8:25, i Pietro 1:10-11. Gesè testimonia l'ispirazione dell'Antico Testamento. Riportiamo alcune delle sue affermazioni. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati. Egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Matteo 11:10. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora, come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Marco 7:8-9. Si chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata. Giovanni 10:35. Gesù autorizza i suoi apostoli a insegnare come depositari della parola e promette loro un aiuto sovrannaturale. Lo Spirito Santo. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Matteo 28:19-20. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Giovanni 15:26-27, vedi anche 14:26, 16:13, 17:18, 20:22. Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto. Giovanni 17:8. Gli apostoli testimoniano l'autenticità delle scritture e degli insegnamenti di Gesù. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, Galati 1:11-12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che, non per se stessi ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. I Pietro 1:10-12. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo, secondo Pietro 1:20-21. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona, secondo Timoteo 3:16-17. Si vedano anche i versetti Corinzi 7:10, 13, 11 e 23. 14:37-38, i Tessalonicesi 4:2-8, i Pietro 1:10-11, secondo Pietro 3:2-15, 16, i Giovanni 5:10, Giuda 3. Il Corano testimonia a favore dell'ispirazione divina della Bibbia e attesta la sua integrità già al tempo di Maometto. La Bibbia stessa testimonia della propria origine divina e della propria integrità. Contrariamente, l'accusa del Corano è rivolta soltanto a pochi ebrei del tempo di Maometto, sempre che il fatto sia storicamente attendibile. Il Corano non riporta un'affermazione che dica l'Antico e il Nuovo Testamento sono stati contraffatti. I numerosi manoscritti della Bibbia, antecedenti alla nascita dell'Islam, sono perfettamente conformi al contenuto della Bibbia attuale. Questa non è una prova più che sufficiente? Il Corano ha rimpiazzato l'autorità della Bibbia? Mi soffermerò brevemente per far luce sulla credenza acquisita dai musulmani secondo cui il Corano avrebbe sostituito l'autorità della Bibbia. I musulmani usano citare certi brani del Corano a sostegno di questa teoria. Non sanno, perché non l'hanno letto, che secondo il Corano Allah esige da Israele che si attenga al suo patto, e quindi lui lo manterrà. O figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e rispettate il mio patto e rispetterò il vostro. Solo me dovete temere. Sura 2 e 41. Inoltre, la mancata fedeltà al patto di Dio non comporta la venuta del Corano. Non è scritto in nessuna parte dell'Antico Testamento. Al contrario, il Corano invita i cristiani ad attenersi strettamente, a leggere e a vivere secondo quel che è stato rivelato nel Vangelo. Giudichi la gente del Vangelo in base a quello che Allah ha fatto scendere. Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli iniqui. Sura 5 e 47. Pertanto, in base al brano sopra citato, non è vero che il Corano ha sostituito la Bibbia. Ed infine ancora quattro passi biblici a sostegno di quanto sopra. Salmo 89, 34. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Geremia 31, 37. Così dice l'Eterno: se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice l'Eterno. Matteo mezzanotte 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Giovanni 10, 35. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata. Apocalisse 22, 18, 19. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città.